Aveva un obiettivo. Ha cercato aiuto. Ha avuto costanza. C. È stata consacrazione. Questi quattro punti saranno sviluppati nel seguente modo. Obiettivo. Amare la Chiesa e l'opera di Dio. Occorre conoscere, essere fermi nelle decisioni. Dio sostiene la sua opera. Chi ha un obiettivo riflette. Chi ha un obiettivo partecipa. I. Aiuto. 9. 10. Non bisogna lavorare da soli. Non cercare il proprio vantaggio. Non cercare il proprio piacere. Uniti si è spiritualmente più forti. Costruiscono assieme grandi e piccole personalità. Costruiscono anche le donne. Costruire spalla a spalla. Fare un lavoro finito. Agire secondo capacità. Lavorare con ardore. Costanza. Necessità della costanza. L'opera di Dio incontra ostacoli. Necessità della preghiera. Le difficoltà aumentano con il tempo e con la crescita. Verrà lo scoraggiamento. Bisogna reagire. Pronti a combattere. Il frutto della costanza. Consacrazione. Stabilire un ordine. Stabilire dei patti. Osservare la legge. Impegno di denaro. Consacrarsi. La gioia dei credenti. Spesso si sente affermare dai pulpiti che il più grande mandato di Gesù per il credente e per la Chiesa sia evangelizzare. Senza togliere nulla a questo comandamento dato da Gesù agli Apostoli, molto probabilmente la priorità per la Chiesa non è evangelizzare. Le ragioni sono due. Prima di tutto, per evangelizzare occorre avere il dono e questo non tutti possono averlo. Infatti, come vi è il dono del profeta, del dottore, vi è anche quello dell'evangelista. Inoltre, se leggiamo anche superficialmente le lettere degli apostoli, l'esortazione maggiore rivolta al cristiano è che cresca nella conoscenza di Cristo per avere una vita santa. È vero che troviamo l'ordine di essere testimoni, ma tra essere testimoni ed evangelizzare vi è una grande differenza. Il fatto che nelle comunità cristiane si metta spesso enfasi sull'evangelizzazione ha prodotto una curiosa situazione, che mi ha portato maggiormente a credere che il grande compito del cristiano non sia evangelizzare. Chi non evangelizza perché gli manca il dono o per altri motivi si sente insoddisfatto e a volte colpevole anche se è un credente attivo nella Chiesa, mentre chi evangelizza si sente realizzato e, per questo meno anche in modo inconscio, meno si sente in diritto di non essere troppo coinvolto nella vita di Chiesa. Invece il grande mandato di Gesù per la Chiesa è di crescere. Così si è espresso l'Apostolo Paolo. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Efesini 4:11-16. Dunque, i doni che si ricevono al momento della nuova nascita sono dati allo scopo di edificare la Chiesa nella quale il credente è inserito. Ogni altra ragione dell'espressione del dono è da considerarsi dubbia. Nel brano che abbiamo letto, Paolo mette in evidenza che i doni sono dati perché noi possiamo crescere nella conoscenza di Gesù Cristo e perché, maturando, possiamo produrre la crescita del corpo, cioè della Chiesa. Per questa ragione inizieremo una serie di riflessioni tendenti ad aiutare coloro che desiderano la crescita della propria comunità, secondo la volontà di Dio. Per questo studio non farò una ricerca di testi biblici inerenti al nostro tema, ma esamineremo l'opera di un uomo che Dio ha usato per compiere un compito simile a quello che dobbiamo fare noi, cioè Neemia. Come egli si mise in cuore di edificare le mura di Gerusalemme, così anche noi dobbiamo avere nel cuore il grande desiderio di edificare la Chiesa alla quale apparteniamo. Dobbiamo desiderare ardentemente non solo di essere presenti, ma di svolgere un compito che, come afferma l'Apostolo Paolo, aiuti tutto il corpo di Cristo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura secondo il vigore di ogni singola parte, produrre la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore, Efesini 4:16. Considereremo dunque l'esperienza di Neemia, non solo nel costruire ciò che era distrutto, ma anche nell'arrivare a ottenere il successo, come sia attuale e utile per noi. Il compito di ricostruire le mura di Gerusalemme prefissato da Neemia era molto arduo, come del resto è arduo il compito di edificare la Chiesa, dato che spesso sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie. Così, se si vive in una comunità che non dà segni di vita, allora conoscere l'opera di Neemia è più che mai urgente. Per capire il valore della sua impresa, basti pensare che altri avevano preso la stessa iniziativa prima di lui, senza tuttavia riuscirvi. Infatti, leggiamo nel libro di Esdra che al tempo di Artaserse i giudei tentarono di costruire le mura, ma non vi riuscirono. Esdra 4:12-21. Eppure erano mossi dalle più grandi e buone intenzioni. Come mai Neemia vi riuscì? Qual è stato il segreto del suo successo? Ho notato 4 motivi per i quali Neemia riuscì a portare a termine il suo compito. 4 motivi che sono pure indispensabili per noi, perché possiamo crescere come Chiesa. Neemia aveva un obiettivo. Ha cercato aiuto, ha avuto costanza, e perché l'opera potesse realizzarsi, si è consacranti con testamento o totalmente alla sua causa. I 4 motivi che hanno dato la possibilità a Neemia di raggiungere il suo scopo saranno sviluppati nel seguente modo. In merito all'obiettivo, perché lo si possa raggiungere, è necessario amare la Chiesa e l'opera di Dio. Per amare la Chiesa alla quale si appartiene non sono necessarie tante ragioni, dato che l'amore di Dio è sparso nel cuore di chi ha posto fede in Cristo, perciò occorre solo avere un cuore puro e libero da ogni risentimento. Per lavorare nell'opera di Dio occorre invece conoscere le necessità e ricordare del continuo che Dio sostiene la sua opera. Inoltre, chi ha un obiettivo è una persona che riflette ed è desiderosa di partecipare ad altri la propria visione perché quest'opera vada avanti. Infine, chi lavora nel campo di Dio deve svolgere un lavoro per fede. In merito all'aspetto dell'aiuto, prenderemo in considerazione la necessità di non essere soli, di lavorare per non cercare il proprio vantaggio né il proprio piacere. Nel campo di Dio, l'aiuto rende più forti spiritualmente ed esso è dato da grandi, come da piccole personalità. Quando si lavora nel campo di Dio, anche le donne costruiscono, si realizza spalla a spalla e il lavoro fatto deve essere un lavoro finito. Non è necessario fare grandi cose, ma ognuno agisce secondo le sue capacità e deve lavorare con ardore. In merito al tema della costanza, per riuscire a portare a termine qualsiasi lavoro, è necessario essere fermi nelle decisioni. Prenderemo in esame la necessità di essere tenaci per poi prendere atto che l'opera di Dio incontra sempre ostacoli. Ecco perché è necessaria la preghiera. Quando si lavora nel campo di Dio si deve sempre ricordare che le difficoltà aumentano col tempo e con la crescita, senza dimenticare che forse verrà la scoraggiamento, perciò bisogna reagire. Bisogna essere pronti a combattere e il frutto della costanza non si farà mancare. In merito al tema della consacrazione, considereremo come sia necessario stabilire un ordine dei patti e come sia importante compiere l'opera di Dio secondo i suoi metodi. Quando si è impegnati a portare a termine un'opera, occorrono denaro e impegno. Solo così vi sarà quella felicità divina tipica di tutti coloro che lavorano per Dio. Esaminiamo in modo particolareggiato ogni aspetto. L'obiettivo che aveva Neemia era di A. amare la Chiesa e l'opera di Dio, B. far conoscere le necessità, C. essere fermo nelle decisioni, D. sapeva che Dio sostiene la sua opera, E. ha riflettuto, F. ha partecipato al suo obiettivo, G. ha svolto il lavoro per fede. Dunque, Neemia ha potuto compiere grandi cose perché aveva come prima caratteristica una visione, cioè un obiettivo. Questo elemento è importantissimo per ottenere qualsiasi risultato nella vita. Chi studia deve sapere che cosa vuole diventare. Chi lavora non costruisce niente di buono se non ha davanti a sé un progetto. Questo vale anche nel campo spirituale. Vi sono dei figli di Dio che, per la vita secolare, fanno progetti come quando comprano un appartamento e vanno in ferie. Ma nel campo spirituale, vivono alla giornata, non si preoccupano se ciò che fanno ha una valenza per il futuro. E così è anche per una comunità. Una chiesa senza obiettivi, senza visione, cammina in modo demotivato. Senza obiettivi non si va da nessuna parte. Forse ti chiedi come puoi avere degli obiettivi. Torna utile vedere come Neemia ebbe l'obiettivo di costruire le mura di Gerusalemme. Neemia amava il suo popolo e la casa di Dio. Così leggiamo. Parole di Neemia, figlio di Acalia. Ora avvenne che nel mese di Chisleu, nell'anno ventesimo, mentre mi trovavo nella fortezza di Susa, arrivò da Giuda Anani, uno dei miei fratelli, assieme ad alcuni altri uomini. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della cattività, e riguardo a Gerusalemme. 1:1-2. Neemia era coppiere del re e certamente non era in difficoltà. Stava sicuramente bene, viveva senza problemi, ma si informò di coloro che soffrivano, volle conoscere la situazione della sua città, dei suoi connazionali. Non si informò per pettegolezzo o per curiosità, ma perché amava il suo popolo. L'amore è la base di ogni sano movente. L'amore si interessa, si preoccupa dell'oggetto che ama. Ringrazio Dio che ogni credente ha l'amore per lo Spirito Santo sparso nel suo cuore. Romani 5:5. Perciò è in grado, o è stato equipaggiato, per amare. Forse non hai grossi problemi, neppure grosse difficoltà, ma ciò non ti esime dall'interessarti di coloro che soffrono, di coloro che hanno problemi, per poterli aiutare. L'Apostolo Paolo scrisse ai Filippesi: «Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri». Filippesi 2:4. Interessati regolarmente della Chiesa alla quale appartieni, perché l'andamento della Chiesa rispecchia la tua situazione spirituale. In una Chiesa non dovrebbero esserci coloro che hanno bisogno dell'aiuto del mondo se ognuno fosse al servizio degli altri. Se ognuno lavorasse e si mettesse a disposizione della Chiesa, non vi sarebbero delle lamentele e dei bisognosi. Mi trovo d'accordo con la riflessione preghiera di André Dumas. Quando penso alla Chiesa, la vorrei tanto come essa non è. Avvincente, impegnata, chiaroveggente, militante, certamente anche multiforme, universale, segreta ed evidente, ricca e corroborante, povera e trasparente, imprevedibile e solida. In breve, oh Dio, mi piacerebbe che la tua Chiesa, che è la nostra Chiesa, mi offrisse tutto quello che io non le do. Allora, oh Dio, fa che la smetta di desimare la Chiesa, al fine di esimere me stesso dall'impegnarmi. Fa che la smetta di spiare i suoi difetti, dal buco della serratura, per esimermi dall'aprire la porta. Fa che abbandoni il banco degli spettatori e degli schermitori, per sedermi sul banco degli attori e dei celebranti, perché solo così finirò di guardare da lontano la tua... Amare Dio significa amare la Chiesa. Com'è possibile amare Dio che non vediamo e non amare il fratello che vediamo, con il quale viviamo fianco a fianco? È possibile solo quando l'amore che proviamo è un sentimento e niente più. Torna utile ricordare che uno dei versetti più conosciuti e anche imparato a memoria nelle scuole domenicali si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 e versetto 16, e cioè: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ma pochi conoscono ciò che Giovanni scrisse nella sua prima lettera, sempre al capitolo 3 e versetto 16. Punto, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ecco l'amore nei confronti dei fratelli in fede: vivere per loro a costo di rinunciare alla realizzazione dei nostri sogni e obiettivi. E forse troppo? È un'opinione discutibile. Se si deve dare la propria vita per i fratelli, non è forse rinunciare a ciò che può farci realizzare? Se fosse morire per i fratelli, sarebbe facile, perché si muore una volta sola, ma dare la propria vita è qualcosa di molto più che morire. È morire, cioè rinunciare ogni giorno a noi stessi. Perché è così difficile rinunciare a noi stessi? I motivi sono vari, ma certamente in un'epoca dove abbiamo tutto in abbondanza. E spesso, subito, siamo portati a pensare in modo particolare a noi stessi. Eppure, se c'era uno che aveva tutto era proprio Cristo. Egli era nella gioia ma rinunciò al suo benessere per la Chiesa. Neemia viene a conoscenza del bisogno e reagisce. Essi mi dissero, i superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù nella provincia, in grande miseria e obbrobrio. Inoltre le mura di Gerusalemme sono piene di brecce e le sue porte consumate dal fuoco. Come udii queste parole, mi posi a sedere e piansi, quindi feci cordoglio per vari giorni, e digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. 1. 3 a 4. Non si può avere un obiettivo di costruire o di aiutare se non se ne conoscono le necessità. E venire a conoscenza delle necessità altrui non capita, come il dolore chiamato il colpo della strega, cioè all'improvviso, ma, il più delle volte, avviene interessandosi degli altri. Sembra una banalità, ma interessarsi degli altri non è da tutti, perché procede da uno spirito che desidera voler far del bene agli altri. E questo desiderio non è comune. La maggioranza delle persone preferisce guardare solo ai propri interessi, anche perché ci sono meno problemi e grattacapi. Ma in questo modo si favorisce il proprio egoismo. Ma l'amore rischia. Ecco perché ogni credente che cresce nell'amore e nella conoscenza di Cristo dovrebbe avere l'obiettivo di conoscere la situazione della propria Chiesa. Dovrebbe interessarsi delle sue necessità. Potrebbero essere necessità pratiche, ma anche spirituali. Appena diventai figlio di Dio, mi resi conto che la Chiesa alla quale appartenevo mancava di un dono in modo particolare. Lo chiesi al nostro grande Dio ed egli mi esaudì. Neemia, che fino a quel giorno era vissuto abbastanza beatamente senza grandi necessità, chiese notizie in merito al suo popolo e dopo aver conosciuto la situazione di indigenza della città di Gerusalemme, pianse, fece cordoglio, digiunò, pregò. Non era una preghiera incoraggiata da altri, una preghiera formale, ma una vera richiesta, quella preghiera bagnata dalle lacrime, quella preghiera accompagnata da un vero digiuno come risultato di quell'amore che viene a conoscere una impellente necessità. Quando parla bisogna essere sensibili alla voce dello Spirito, perché non tutte le necessità sono delle chiamate a servire Dio in quell'ambito, ma quando una necessità tocca, nel profondo occorre investigare se sono solo i sentimenti che sono scossi, oppure sia la voce di Dio. E quella parte della volontà di Dio che deve essere conosciuta per esperienza. E perché questo avvenga, occorre il forte desiderio di conoscerla per metterla in pratica. Neemia era un uomo fermo nelle sue decisioni. Nel mese di Nisan, l'anno ventesimo del re Artaserse, come il vino era portato davanti a lui, io presi il vino e lo porsi al re. Ora io non ero mai stato triste in sua presenza. Perciò il re mi disse, perché hai l'aspetto triste, anche se non sei malato? Non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora fui preso da una grandissima paura e dissi al re, viva il re per sempre! Come potrebbe il mio volto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Il re mi disse, che cosa domandi? 2, 1 a 4. A volte si viene a conoscenza di fatti tristi e si rimane toccati. Poi il tempo cancella ogni cosa. Ma per Neemia le cose non furono così. Egli fece cordoglio nel mese di Chisleu, 1-1, cioè il mese di dicembre, e nel mese di Nisan, cioè in aprile, era ancora triste. 4 mesi di cordoglio, di preghiera e di digiuno. Era forse Neemia un uomo spesso dedito ai digiuni e ai sacrifici? Aveva la tendenza di una vita ascetica? No. Era un uomo sempre allegro, 2.1. E questo valorizzava il suo cordoglio. Neemia non era un essere instabile, né un uomo che si lasciava commuovere facilmente, ma questa volta non è rimasto indifferente ad un bisogno. Come siamo strani noi uomini! le persone che sono sempre allegre ci ispirano poca fiducia. Guardiamo con più speranza a ragazzi che sono prevalentemente tristi, che hanno l'apparenza di austerità, di serietà. È proprio vero che noi giudichiamo dall'apparenza. Un fratello, prima di morire, mi fece questa confessione. Quando tu e Dubiucre frequentavate per la prima volta il nostro ambiente, avevo poca fiducia di te, non avevo stima e né speranza per il tuo futuro. Ma ora mi sono ricreduto e devo confessarti che il mio pensiero su di te avrei dovuto attribuirlo all'altro. Io credo sia più difficile godere sempre della gioia del Signore piuttosto che essere sempre seri. Per essere seri non occorre molto, ma per godere della gioia di Cristo occorre un atto di fede non comune. Occorre fede, costanza, fermezza. Colui che si esercita di essere felice in Dio è colui che, quando determina, decide, non si lascerà smuovere tanto facilmente. La Chiesa ha bisogno di uomini decisi, di persone che sanno mantenere gli impegni e che non si lasciano guidare dai sentimenti o dalle circostanze. Nessuno ha mai ottenuto un successo se non è fermo nelle sue decisioni, se non è pronto al sacrificio, all'autodisciplina, all'autocontrollo. Come è scritto, a colui che è fermo nei suoi propositi, tu conservi la pace, perché in te confida. Isaia 26:3. Qualcuno ha detto che uno dei principali responsabili per la nostra mancanza di autocontrollo è l'enfasi da noi culturalmente posta nel desiderare l'espressione di noi stessi. I nostri valori danno un'importanza esagerata ad ideali come l'apertura, l'autenticità, la trasparenza, l'affermazione di sé, la realizzazione del proprio potenziale e la sincerità. Tendiamo a considerare come ormai superati concetti quali il sacrificio, l'autodisciplina, l'amore che rinuncia a se stesso, l'ubbidienza e la scelta di sopportare. Le nostre energie sono state indirizzate verso l'espressione più che verso l'autocontrollo. Invece il paradosso del cristianesimo è che l'autorealizzazione del proprio potenziale sia tramite l'autorinuncia. Chi non sa dominare se stesso non è in grado di saper dominare le circostanze della vita, sia positive sia negative. E non si pensi che sia facile essere padroni delle circostanze. Perfino l'apostolo Paolo, un uomo vissuto come fariseo, la più rigida setta della religione ebraica, Atti 26.5, ha dovuto confessare che aveva imparato a vivere nelle circostanze più disparate, come l'essere abbassato e vivere nell'abbondanza, ad essere sazio come ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria, Filippesi 4.1112. A volte si pensa di dover fare chissà che cosa per arrivare ad imparare l'autocontrollo, cosa del resto che anche per me era un punto interrogativo, fino a quando non lessi nella lettera di Giacomo che chi non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, cioè completo, ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo, Giacomo 3.2. Dunque, chi controlla la sua lingua secondo la scrittura riesce a controllare anche gli altri istinti del corpo. Da allora, cioè da quando Dio mi ha rivelato questo aspetto, ho tenuto in considerazione molto il mio parlare. E soprattutto ho deciso in modo categorico di controllare le mie parole, come le dico e quando le dico. Devo dire che funziona. Ho fatto presente questo aspetto ad una mamma, il figlio della quale aveva difficoltà nel parlare. Lei lo ha incoraggiato a esercitare il controllo sulla propria lingua e, in poco tempo, se ne sono visti i risultati. Dunque Nenì ha avuto un obiettivo, che come sappiamo ha poi portato a termine. Ma non tutti gli obiettivi sono buoni, non tutti vengono da Dio. Un obiettivo messo in cuore da Dio ha alcune caratteristiche fondamentali che prendiamo in esame dettagliatamente. L'opera di Dio è sostenuta da Dio stesso. Neemia ha dato questa testimonianza. Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re. Se questo piace al re e il tuo servo ha trovato favore agli occhi tuoi, lasciami andare in Giudea, nella città dei sepolcri dei miei padri, perché possa ricostruirla. Il re mi disse, quanto durerà il viaggio e quando ritornerai? Così piacque al re di lasciarmi andare. e io gli indicai un termine di tempo. Poi dissi al re: se così piace al re, mi si diano delle lettere per i governatori della regione oltre il fiume, affinché mi diano il lasciapassare finché sia giunto in Giuda, e una lettera per Asaf, sorvegliante della foresta del re, affinché mi dia il legname per costruire le porte della cittadella annessa al tempio, per le mura della città e per la casa in cui andrò ad abitare. Il re mi dia delle lettere, perché la mano benefica del mio Dio era su di me. 2:4-8 Neemia aveva davanti a sé molti ostacoli, ma ad un tratto la strada era appianata. Avere una strada appianata non è sempre segno della volontà di Dio, perché anche il diavolo favorisce le circostanze. Penso spesso al re Saul, il quale per invidia voleva uccidere Davide, e quando pensò di essere arrivato al suo proposito, disse: Dio lo ha consegnato nelle mie mani. 1 Samuele 23.7. Come si fa presto ad attribuire alla volontà di Dio le situazioni che vanno a nostro favore? Come si fa presto a concludere che Dio pensa come la pensiamo noi? Eppure sta scritto che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, che le sue vie non sono le nostre vie. Isaia 55.9. Eppure, nonostante ciò, continuiamo a pensare nel profondo del nostro essere che, in fondo, Dio la pensa come noi. E un pensiero che non diciamo, ma che abbiamo dimorante al sicuro sotto il nostro perbenismo. Cosa fare? Quando si ha in cuore un peso o un'idea che riteniamo provenga da Dio, dobbiamo esaminare prima di tutto se è per la gloria di Dio e poi se produce benessere al prossimo, perché il vero amore non fa male ad alcuno. Romani 13.10. Mi è molto piaciuta la risposta data da un fratello a chi lo voleva picchiare: se pensi che questo ti faccia del bene e trovi faccia del bene anche a me, fallo. Dunque, quando una visione proviene da Dio, egli ci dà anche la possibilità di poterla svolgere in santità. Dio approva gli obiettivi di una chiesa quando vi è una visione condivisa e quando le circostanze sono favorevoli, perché è sovrano in tutte le circostanze, egli è in grado di rimuovere ostacoli impossibili. Ne sanno qualcosa coloro che lavorano per Cristo. Il detto chi non risica non rosica è valevole anche nel regno di Dio. Occorrono grandi obiettivi se si vogliono ottenere grandi successi. Chi ha un obiettivo giusto, prima pensa, riflette, pianifica, prepara ogni cosa perché il suo obiettivo risulti non un fuoco di paglia, ma una necessità da compiersi. Leggiamo il capitolo 2 dal versetto 11 a 16. Così giunsi a Gerusalemme e vi rimasi 3 giorni. Poi mi levai di notte assieme a pochi altri uomini, ma non dissi nulla ad alcuno di ciò che il mio Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me alcun altro giumento all'infuori di quello che io cavalcavo. Uscii di notte per la porta della valle, nella direzione della sorgente del dragone e della porta dell'etame, ispezionando così le mura di Gerusalemme che erano piene di brecce e le sue porte che erano consumate dal fuoco. Proseguii quindi per la porta della sorgente e la piscina del re. Ma non v'era posto per cui far passare il giumento sul quale ero. Allora risalii di notte la valle, sempre ispezionando le mura. Infine ritornai indietro, rientrando per la porta della valle, e così feci ritorno. I magistrati non sapevano dove io fossi andato né che cosa avessi fatto. Fino a quel momento non avevo ancora detto nulla, né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. 2:11-16 Lo zelo di Neemia non era una vampata di sentimento, non era aria fritta. Aveva esaminato ogni cosa per verificare se in effetti vi era un certo bisogno e per prendere atto della qualità di questa necessità. Così una chiesa che ha obiettivi sani e buoni si muoverà su dei fatti reali, realizzabili e non su sentimentalismi del momento. Una chiesa che desidera testimoniare o un gruppo di persone che desiderano avviare una testimonianza devono valutare se il proprio desiderio è frutto di una voglia momentanea o se è una necessità scaturita da un lungo tempo di riflessione, di preghiera e di attesa. Com'è difficile comprendere la volontà di Dio. Quando leggo il libro degli Atti rimango edificato nel constatare Quanto lavoro di testimonianza abbiano compiuto i primi credenti guidati dallo Spirito Santo, ma forse gli episodi che più mi stanno a cuore sono quelli narranti di quando l'Apostolo Paolo aveva l'obiettivo di testimoniare l'Evangelo in Asia e in Bitinia, ma lo Spirito Santo glielo vietò, Atti 16.6-7. Dio vieta di predicare l'Evangelo in una certa località. Possibile? Sì. Bisogna conoscere per esperienza la volontà di Dio. Romani 12.2, perché non è volontà di Dio che si faccia tutto e di tutto. Chi ha un obiettivo divino fa partecipe altri del suo piano. La riservatezza di Neemia non era fine a se stessa, non aveva secondi fini illeciti, essa non era altro che tanta serietà prima di agire. E lo dimostra il fatto che in seguito ne parla con altri, condividendo loro la propria idea. Allora io dissi loro: voi vedete la misera condizione nella quale ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme, e così non saremo più nell'obbrobrio. Raccontai quindi loro come la mano benefica del mio Dio era stata su di me, e anche le parole che il re mi aveva detto. Essi allora dissero: leviamoci e mettiamoci a costruire. Così presero coraggio per mettere mano a questo importante lavoro. 2:17-18. Dopo aver riflettuto, Neemia partecipa agli altri i suoi progetti per l'avanzamento del regno di Dio. Molto tempo noi lo passiamo a parlare e parlare, e spesso di cose che non hanno proprio valore. Non importa, ma noi abbiamo bisogno di comunicare, di relazionarci. Dedicare del tempo per le cose che riguardano il regno di Dio non è facile, perché la tirannia delle cose urgenti terrene spesso supera le necessità del regno di Dio. Sì, perché il regno di Dio ha le sue necessità, e a volte urgenti. Vedere il regno di Dio come una cosa che non ci riguarda direttamente è un luogo comune per molti credenti, i quali ritengono che il compito di essere testimoni sia esclusivamente addossato a conduttori di chiese e a missionari. È vero che non tutti abbiamo le stesse responsabilità, ma tutti, senza distinzione, dobbiamo interessarci del regno di Dio, dedicare ad esso del tempo, cercare occasioni favorevoli per parlare di come essere una chiesa vivente. Si dice che oggi la chiesa sia un cartello che indica una direzione sbagliata, e se anche la sentenza è forte, purtroppo è vero che in genere il bisogno di studiare e organizzare metodi per far raggiungere il Vangelo a più persone possibili non è così sentito. Ogni figlio di Dio dovrebbe studiare come essere un testimone sempre più efficace. Non solo, dovrebbe pure sviluppare una mentalità tale da avere dei seguaci, cioè persone che lo vorrebbero imitare. Essere di esempio nel bene è un ordine che dovremmo considerare al pari di amare il prossimo come noi stessi. 1 Timoteo 4.12. Perché un giorno, soprattutto i nostri figli, seguiranno il nostro esempio e non i nostri consigli. Altra cosa molto importante che possiamo imitare da Neemia è il non essere individualisti o vivere con uno spirito di indipendenza. Neemia ha avuto una visione e l'ha partecipata agli altri. Ha cercato comunione, collaborazione, e questa non nasce dall'oggi al domani perché le persone hanno bisogno di vedere attentamente il problema prima di essere disposte a collaborare. Perciò la comunione, cioè la partecipazione, è un ingrediente essenziale negli aspetti pratici. Per questo, un'ampia condivisione della nostra visione con l'intera Chiesa, con la presentazione delle necessità e delle ragioni dei nostri obiettivi sono essenziali, sia come forma di rispetto nei confronti della comunità, considerata alla stregua di famiglia di Dio, e sia nel giungere ad un'ampia e diffusa comunione. Dobbiamo tutti guardarci dall'individualismo, ma specialmente le persone più dotate di personalità, le quali sanno servire il Signore, ma a volte non hanno imparato a servire assieme ai fratelli. Quando mi comporto da individualista? Certamente in molti modi e in molte maniere. Soprattutto però quando il mio agire non è in armonia con la Chiesa alla quale appartengo e non è teso alla sua crescita. I doni che Dio ha dato alla Chiesa come corpo devono essere espressi per il bene di questo, in armonia con esso, diversamente si agisce per rivalità. Cristo Gesù è morto per unire e riconciliare i figli di Dio e perché armoniosamente servano il Dio Trino, perciò ogni problema di comunione fraterna deve essere risolto con questo obiettivo. E questo il tuo metodo per risolvere i problemi della tua Chiesa? L'Apostolo Paolo ha sempre fatto presente nelle sue lettere che tutti abbiamo bisogno gli uni dagli altri, perché la vita cristiana è un gioco di squadra, dove ognuno mette il suo dono o i suoi molteplici doni al servizio della Chiesa perché si possa raggiungere il vero obiettivo, cioè edificare il corpo di Cristo. Secondo Dio, la divisione è sempre il risultato di un'opera umana e non dello Spirito Santo. Dobbiamo essere onesti. Quando qualcosa non va nella Chiesa alla quale apparteniamo, la prima cosa che ci viene voglia di fare è buttare ogni cosa all'aria e poi vivere a modo nostro. Questo è lo spirito dell'individualismo. Vivere da individualisti non è condursi in modo degno dell'Evangelo, perché Cristo è venuto per riunire i figli di Dio dispersi, non perché ognuno si faccia i fatti suoi. Il credente, che lo voglia o no, è inserito nel corpo di Cristo, perché, come sta scritto, Dio ha dato al solitario una famiglia. Qualsiasi idea cristiana che tu abbia, basata sulla Bibbia e in merito alla quale sei convinto provenga da Dio, se essa non conduce all'unione dei cristiani, deve essere per te un richiamo a rivedere il tuo comportamento, perché non onora il Vangelo. Sta scritto: chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza, o, come traducono altre versioni, si adira tutto quello che è profittevole. Proverbi 18:1. Si tratta di crederci. Il lavoro è svolto per fede. Neemia sapeva che ciò che stava per fare rientrava nella volontà di Dio. Quando però Sanballat, l'oronita, e Tobia, il servo ammonita, e Geshem, l'arabo, vennero a saperlo, ci schernirono e ci disprezzarono, dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora io risposi e dissi loro: sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Noi, suoi servi, ci metteremo a costruire, ma per voi non ci sarà né parte né diritto né ricordo in Gerusalemme. 2:19-20. Se senza fede è impossibile piacere a Dio, è evidente che senza fede nessuna opera può essere iniziata e portata a termine. Una chiesa senza fede non regge. Essa deve perseguire il suo scopo anche di fronte alle evidenti difficoltà. Per crescere come chiesa abbiamo prima di tutto bisogno di una visione, di un obiettivo, e poi andare avanti nonostante tutto. Dire nonostante tutto è un'espressione molto difficile da comprendere se non la si cala nella realtà. Per quanto mi riguarda, posso capire questa espressione solo quando leggo la vita di certi missionari, i quali, pur di adempiere l'obiettivo che ritenevano da Dio, si sono privati anche dei soliti comfort della vita. Spesso hanno sofferto serie malattie e prigioni, hanno seppellito i loro figli nella terra straniera, ma senza avere avuto il minimo desiderio di tornare in patria. Questo è il nonostante tutto. Di fronte a questa determinazione mi sento un piccolo verme, perché alle prime difficoltà, nello svolgere l'opera di Dio, subito spunta l'istinto di mollare, di dire: ma chi me lo fa fare? Poi, per la grazia di Dio, con un colpo di reni mi riprendo e penso a chi mi ha preceduto, induco la mia mente a pensare alla grande schiera di testimoni di cui sono circondato, Ebrei 12:1. Ma soprattutto, per non stancarmi né perdermi d'animo, ancora una volta rivolgo gli occhi verso Cristo, il quale sopportò la croce disprezzando l'infamia, Ebrei 12:3. Una chiesa che ha fede non ha un sentimento vago, romantico, incolore, ma guarda Cristo, che è remuneratore di chiunque lo serve. Che ognuno di noi abbia il grande obiettivo di costruire la chiesa in armonia con i fratelli, di amare il prossimo quando sorgono incomprensioni, di servirlo, di lavorare per il bene comune. Parliamo ancora della necessità di avere uno spirito comunitario, perché purtroppo è accaduto che Grandi personalità, ma non modellate e sottomesse all'azione dello Spirito Santo, hanno prodotto gravi danni al regno di Dio. Non si tratta di pretendere una obbedienza assoluta come la esige il cattolicesimo romano, ma di rendersi conto che anche i più grandi propositi, idealmente onesti, possono provocare mali estremi se privi dell'obiettivo di mantenere l'unità cristiana. Questa mancanza non è tipicamente moderna, ma era già presente nelle prime comunità cristiane. Paolo, per esempio, rivolge ai credenti l'ordine di comportarsi in modo degno del Vangelo di Cristo. Filippesi 1:27, e tale ingiunzione non la rivolge ai Galati, i quali cercavano la perfezione per mezzo delle opere. Non l'aveva rivolta neppure ai Corinzi, i quali, quantunque ricchi di doni spirituali, si comportavano in talune circostanze peggio degli increduli. Neppure l'aveva indirizzata ai Colossesi, i quali erano attirati dal culto degli angeli. Paolo l'aveva rivolta ad una chiesa che poteva essere presa ad esempio come modello, cioè alla chiesa di Filippi. L'ordine di Paolo è evidente: come il soldato deve onorare la divisa che indossa, come il giudice deve onorare l'incarico che riveste, così il cristiano deve onorare il messaggio che predica, deve onorare il mandato che Dio gli ha affidato. Cosa dovevano fare i filippesi? Che cosa aveva Paolo da riferire di così importante? Sia ai diaconi che ai conduttori. Dovevano evitare grossi peccati come i credenti di Corinto. Dovevano evitare errori dottrinali come i credenti di Colosse. No! L'invito di Paolo, rivolto alla chiesa di Filippi, era riferito ad alcuni atteggiamenti che avrebbero dovuto assumere i credenti per onorare il Vangelo di Cristo. Se noi non riteniamo di essere migliori di loro, facciamo nostri questi richiami. Il primo atteggiamento che devi avere perché la chiesa alla quale appartieni possa crescere ed essere edificata è possedere un medesimo obiettivo. 2.2, una solamente, 4.2. I filippesi avevano a cuore l'avanzamento del regno di Dio, non mancavano di zelo e di amore, aspettavano il ritorno di Cristo, ma non erano uniti, non avevano uno stesso animo. Avevano bisogno di unità, di compattezza, al punto che nella sua lettera rivolge lo stesso ordine a due sorelle, affinché avessero una sola mente, uno stesso sentimento. 4.2. Paolo ordina ai filippesi di avere lo stesso sentimento che fu in Gesù. L'apostolo usa la parola sentimento almeno 6 volte nelle sue lettere. Romani 12:6, 15:5, 2 Corinzi 13:11. E dal contesto risulta evidente che non si riferisce a delle sensazioni, ma al proposito di Gesù, alla sua decisione, alla sua fermezza di umiliarsi e morire in croce. Tenendo presente che in greco la traduzione letterale di sentimenti è pensare la stessa cosa, invitando i cristiani ad avere un medesimo sentimento, Paolo ordina ai cristiani ad avere uno stesso obiettivo, ad essere motivanti co testamento i, dalla stessa decisione di Gesù, amare il prossimo col servizio. Avere lo stesso sentimento, dunque, non significa provare le stesse sensazioni o emotività. Altrimenti tutti dovremmo andare alle riunioni della Chiesa con lo stesso grado di gioia o di dolore. Possiamo affermare con certezza che la Scrittura non ci invita a basare la nostra vita cristiana sulle sensazioni, sulla nostra emotività, sul nostro stato d'animo. Anzi, afferma che camminare sulla via dei sensi significa imboccare una strada che non piace a Dio. Perciò la vita emotiva può essere considerata il più terribile nemico nella vita di un credente spirituale. Per cui ciò che Paolo ordina ai credenti di Filippi è di non stare attaccati a certe posizioni, ad essere tutto di un pezzo, ma di essere disposti anche a cedere, a lasciare certe posizioni di prestigio, ad umiliarsi. L'ordine di Paolo rivolto ai filippesi non era niente meno che avere lo scopo, la meta, l'intenzione di abbassarsi come era stato per il loro Signore, al fine di onorare l'Evangelo. Facile da dirsi, ma difficile da farsi. Perché quando si hanno delle convinzioni, come è possibile comportarsi diversamente da come si pensa? Non si tratta forse di ipocrisia? Questo è il nostro vero problema. È vero, ci sono volte nelle quali è necessario rimanere fermi, se nell'agire diversamente non si onora Dio e il Vangelo. Anche l'Apostolo Paolo dovette agire in questo modo e, poiché la cosa è molto importante, leggiamo la sua testimonianza in merito a chi voleva che i credenti fossero circoncisi. Dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere, e ciò a causa dei falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in servitù. A costoro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra di voi. Galati 2.15. Questa si chiama fermezza cristiana ed è ben diversa dalla cocciutaggine. Se si vuole costruire positivamente, la Chiesa occorre anche non fare nulla per rivalità o vanagloria. Filippesi 2.3. Molto probabilmente, al giorno d'oggi, lo spirito di indipendenza è l'atteggiamento più comune, disse uno psicologo. Vi è un campo in cui la mentalità dei nostri tempi ostacola la restaurazione del senso della comunità. È quello della filosofia individualistica nella quale ci troviamo tuffati da Cartesio in poi. Gli uomini sono, senza saperlo, totalmente ispirati dalla sua filosofia, sia nel modo di pensare e di sentire, sia nell'azione pratica, cioè individualisti. E è vero. Quando ero un ragazzo sul lavoro c'erano dei maestri e dei discepoli. Oggi nessuno vuole essere più un discepolo, cioè uno che apprende da un altro. Ho presente ancora un giovane di 16 anni, che mi aiutava sul lavoro e faceva il contrario di quello che gli insegnavo. Dovendosi giustificare col datore di lavoro, motivò il suo atteggiamento dicendo che lui pensava di saperne più di me. Fu subito licenziato. Altro atteggiamento, indispensabile per aiutare la propria Chiesa, è stimare gli altri più di se stessi. Filippesi 2.3. Occorre afferrare bene il senso di un tale ordine divino, perché si possono trarre delle conclusioni anche assurde. Prima di tutto non intende quello che sembra voler dire, cioè reputare gli altri sempre migliori di se stessi, altrimenti non avrebbe senso l'ordine di riprendere il prossimo. E anche Paolo avrebbe sbagliato quando disse «Siate miei imitatori». Filippesi 3.17. Inoltre, il buon senso mi dice che non posso considerare un avvocato più abile di me, per quello che riguarda il mio lavoro di saldatore. Come del resto un medico non può stimare me più capace di lui per quello che riguarda la sua professione. Ti ricordo un credente che, facendo tutto sconsolato una considerazione nei riguardi di un altro fratello non dotato di certe capacità, concludeva: «Ma il Signore ci ha detto che dobbiamo stimare gli altri più di noi stessi». Aveva un conflitto causato dalla mancata corrispondenza tra la propria interpretazione dell'affermazione di Paolo e la realtà. Il senso della frase di Paolo è quindi un altro. Paolo chiede che ognuno di noi riconosca l'opera che Dio sta compiendo nel fratello e abbia più considerazione per i doni degli altri che per i propri. Infatti, per natura siamo inclini a valorizzare i nostri doni, mentre invece dobbiamo avere la propensione a mettere in risalto i doni dei fratelli. Questa è una grande esortazione per tutti. Abbiamo considerato che Neemia ha avuto la visione o l'obiettivo di ricostruire le mura di Gerusalemme. Chi non ha un obiettivo non va da nessuna parte, chi non ha una meta non la raggiungerà. Chi non sta andando da nessuna parte non può avere compagni di viaggio. In merito all'obiettivo per compiere un'opera di Dio, abbiamo detto che è necessario amare la Chiesa e l'opera di Dio. Per amare la Chiesa alla quale si appartiene non sono necessarie tante ragioni, perché l'amore di Dio è sparso nel cuore di chi ha posto fede in Cristo. Perciò occorre solo avere un cuore puro e libero da ogni risentimento. Per lavorare nell'opera di Dio occorre invece conoscere le necessità e ricordare del continuo che Dio sostiene la sua opera. Inoltre, chi ha un obiettivo è una persona che riflette ed è desiderosa di partecipare i propri pensieri ad altri, perché quest'opera vada avanti

spiritualità. Si può essere capaci e non spirituali, come si può essere spirituali e non capaci. Nel mondo sono le capacità che portano avanti le cose, nella Chiesa sono invece i doni espressi mediante l'amore. Forse è per questo che, spesso, sono le forti personalità a non riuscire ad inserirsi nella comunità. Noi che crediamo alla parola di Dio dobbiamo anche credere alle affermazioni scomode in essa contenute come quella espressa nel libro dei Proverbi. Chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza. Proverbi 18:1. Questo proverbio insegna due importanti verità. La prima è: chi si separa cerca la propria soddisfazione. Quando si cerca la propria soddisfazione non si può cercare quella degli altri. Infatti Neemia non cercava il proprio vantaggio e neppure il proprio piacere. La parola di Dio è ricca di comandamenti perché il cristiano si inserisca, perché viva in seno alla Chiesa e per la Chiesa. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi anche quello degli altri. 1 Corinzi 10:24. L'invito di Paolo è di occuparsi non solo di ciò che torna a nostro vantaggio, ma anche di ciò che è utile agli altri. Inoltre, nella Chiesa non ci è spazio per i calcolatori, perché sta scritto: ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione. Romani 15:2. Nella Chiesa non ci è neppure spazio per le soddisfazioni personali. Ciascuno stimi gli altri più di se stesso, Filippesi 2:3, come non ci è posto per ambizioni personali. Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. 1 Corinzi 14:26. Quando si è uniti si è più forti, due valgono meglio di uno solo punto. Se infatti cadono, l'uno rialza l'altro. Ma guai a chi è solo e cade, perché non ha nessun altro che lo rialzi. Se uno può sopraffare chi è solo, due gli possono resistere. Ecclesiaste 4:9-12. Il libro dell'Ecclesiaste esamina la vita dal punto di vista umano, la quale è paragonabile alla vita spirituale. La seconda verità insegnata dal proverbio è che chi si separa si adira contro la sapienza. Per un ebreo, essere adirato contro qualcuno non significa solo essere in collera, ma significa non amare, non cercare il bene dell'altro. Chi si separa, quindi, non ama perché non collabora. Gettare le basi della necessità della comunione fraterna, prendiamo in esame, nel racconto di Neemia, chi costruì e in quale modo. Chi lavorò alla costruzione delle mura? Assieme alle grandi personalità, costruirono le persone più semplici. Costruì il sommo sacerdote. Eliashib, sommo sacerdote, si levò allora assieme ai suoi fratelli sacerdoti e costruirono la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero i suoi battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che poi consacrarono, e fino alla torre di Hananel. 3:1. Da ricordare che il sommo sacerdote era la più grande personalità religiosa del popolo. Paragonabile al Papa per chi è cattolico, o al pastore o all'anziano, per chi sia protestante. Eppure si adoperavano in lavori manuali. Non dobbiamo sottovalutare questo aspetto nella vita cristiana. Perché anche se essere applicati alla lettura e allo studio è auspicabile, non di meno lo è lo studio unito a lavori pratici al fine di non cadere in ragionamenti teorici che lasciano il tempo che trovano. La Chiesa ha bisogno di uomini che siano in grado di affrontare argomenti difficili, ma altresì di uomini che abbiano una buona manualità in tante cose pratiche. Alla costruzione delle mura si dedicarono anche persone socialmente importanti. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Uziel, figlio di Arhaia, uno degli orefici. Vicino a lui lavorava alle riparazioni Hananaia, uno dei profumieri. Essi fortificarono Gerusalemme fino al muro largo. 3:8. Gli orefici e i profumieri erano certamente persone altolocate, distinte, eppure svolgevano dei lavori manuali. Inoltre, vi erano persone altolocate anche nel campo spirituale, come i Leviti e i sacerdoti, persone che avevano il compito di occuparsi del santuario e di offrire sacrifici, eppure facevano lavori manuali. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i Leviti, sotto Rehum, figlio di Bani, vicino a lui lavorava alle riparazioni per il suo distretto Hashabia, capo di metà del distretto di Keila. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i sacerdoti che abitavano nei dintorni, 3:18-22. Infine vi erano anche i mercanti, i quali, nonostante si occupassero di commercio, lavoravano alle mura. Fra la salita dell'angolo e la porta delle pecore lavorarono alle riparazioni gli orefici e i mercanti, 3:32. Poi vi erano tutti gli altri, il cui nome non è menzionato, ma, davanti a Dio e anche davanti agli uomini, avevano il loro valore. Così è nella Chiesa. Lavorano persone conosciute e famose, ma anche persone senza notorietà, che, nel silenzio e nell'anonimato, portano avanti l'opera di Dio. In una Chiesa Dio ha chiamato a lavorare fianco a fianco persone di ogni rango e di ogni ceto sociale. Paolo lo ha ricordato in questo modo. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli. Poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli, e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. 1 Corinzi 1:26-29. Dio ha scelto ogni tipo di persona per svergognare coloro che possono e non fanno. Questa è la realtà di molte chiese, e noi dobbiamo accettarla. Quindi, le personalità di alto rango, le personalità più dotate, non devono sentirsi superiori, come il credente di umile rango, con doti apparentemente inferiori, non deve sentirsi meno elevato. La Chiesa è l'unico posto al mondo dove ogni persona deve trovarsi a suo agio, perché Dio non chiama sempre i più capaci, ma rende capaci coloro che chiama. Ma è necessaria l'umiltà. Fare dei lavori manuali per costruire le mura era probabilmente umiliante per certa gente. Il sommo sacerdote si sporcava. Il profumiere puzzava. Al mercante e al profumiere veniva certamente la carne greve, infatti non tutti lavorarono come leggiamo in seguito. Vicino a loro lavoravano alle riparazioni i tecoiti, ma i nobili fra di loro non piegarono il collo per fare il lavoro del loro signore. 3:5. Purtroppo in una chiesa vi è sempre il nobile, cioè colui che non lavora. Questo dato di fatto non ci deve portare allo scoraggiamento. L'obiettivo del cristiano sarà quello di lavorare in modo di essere un esempio, un incoraggiamento, uno sprone per altri. Scrivendo al giovane Timoteo, Paolo gli ordina di essere di esempio nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. 1 Timoteo 4.12. Mentre l'autore della lettera agli ebrei ordina ai suoi lettori di ricordarsi dei loro conduttori e di imitarne la fede. Ebrei 13.7. Non è certamente poco essere di esempio a ragione di imitazione. A volte si cercano grandi obiettivi, ma ve ne è forse uno maggiore e più nobile che quello di essere di esempio? Ricordiamoci che l'apostolo Paolo si è convertito dopo essere stato testimone al martirio di Stefano. E, se anche la Bibbia non lo dice chiaramente, la morte di Stefano è stata per lui un grande esempio di come si deve non solo morire, ma anche vivere per Cristo. Quanto può fare un buon esempio? Ho conosciuto molte persone che hanno accettato il messaggio di Cristo anche perché un nonno leggeva loro la Bibbia e predicava il Vangelo. Hai tu questa fede? Hai tu questo obiettivo? Alla costruzione delle mura di Gerusalemme partecipavano anche le donne. Così leggiamo. Vicino a lui lavorava alle riparazioni, insieme alle sue figlie Shallum, figlio di Alloesh, capo di metà del distretto di Gerusalemme. 3:12. Doveva essere veramente uno spettacolo insolito vedere delle ragazze fare da muratore in mezzo a tanti uomini, ma l'opera di Dio ha bisogno di tutti. La Chiesa ha bisogno di ogni singolo credente, anche della partecipazione femminile. Ricordiamoci che noi Stiamo vivendo l'epoca delle profezie dell'Antico Patto, quando lo Spirito Santo riempì tutti coloro che erano nell'alto solaio, cioè uomini e donne. Chi osservava tale evento rimase stupito, ma Pietro giustificò quanto accadeva dicendo: «Questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele: i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i miei servi e le mie serve profetizzeranno». La profezia di Gioele e di tanti altri profeti è diventata per la Chiesa di oggi una realtà. Nella Chiesa di Dio vi sono dunque compiti sia maschili sia femminili, e chi non accetta questa realtà perde molte benedizioni che Dio ha elargito alla Chiesa. Ma quali sono i compiti e i ruoli che deve svolgere la donna in una Chiesa? Vale la pena dare una risposta a queste domande, perché vi sono tante opinioni in merito e alcune delle quali forse un poco estremiste. Si potrebbe parlare all'infinito, ma per brevità conviene esaminare solo due aspetti, cioè la sottomissione e cosa significa profetizzare, aspetti che condizionano notevolmente l'andamento di una Chiesa. In merito alla sottomissione dobbiamo dire che questo è un principio o un ordine che scaturisce da ogni pagina della Bibbia. Per alcuni la sottomissione della donna all'uomo è una situazione indegna. Ma, come disse qualcuno, se essere capo non equivale ad avere un comportamento autoritario, essere sottomessi non significa vivere da schiavi. Ma cosa significa questo termine sottomissione? Se si considerano gli altri suoi usi nel Nuovo Testamento, il suo significato non è difficile. E, usato per indicare la relazione tra il cittadino e l'autorità civile. Figlio e genitore, discendente e docente, peccatore e evangelo, Chiesa e Cristo, Cristo e Dio, infine tra tutta la creazione e Cristo. È evidente da questi esempi che sottomissione significa l'accettazione di un ordine vero e naturale nella vita, in virtù del quale qualcuno offre protezione e sostentamento ad un altro, il quale a sua volta trova in una tale posizione vero sviluppo e scopo. E una relazione dinamica che cresce e che soddisfa è una relazione funzionale, pratica e mutuamente accettabile. Perciò, le donne in una chiesa non sono solo un elemento fondamentale per la crescita di questa, ma il rapporto che la donna ha con la chiesa ne determina anche la crescita. E, detto sovente dai pulpiti che l'Evangelo ha rivoluzionato il ruolo della donna, ruolo del quale hanno parlato i profeti. Infatti, da una certa posizione di inferiorità, ora la donna ha una posizione privilegiata. Vediamo nei Vangeli che Dio sceglie di parlare prima a Maria, una giovane vergine, e non a Giuseppe, Matteo 1:20. Elisabetta, sua cugina, è la prima a salutare il mistero dell'incarnazione, Luca 1:42. Anna, la profetessa, diventa in un certo senso la prima evangelista, perché ci è detto che essa parlava di Gesù, Luca 2:36. Gesù guarisce la donna posseduta da uno spirito di infermità che la rendeva tutta curva, Luca 13:11. Mentre Gesù andava per guarire il servo di un uomo, si ferma per una donna che aveva perdite di sangue, Luca 8:40-48. Della donna cananea Gesù testimonia: «O donna, grande è la tua fede», Matteo 15:28. Inoltre nei Vangeli è ricordato che Simone, il fariseo, si deve mettere alla scuola di una donna dalla cattiva reputazione e che bagnava i piedi di Gesù con le lacrime, Luca 37:26-50. Una donna che versa sul capo di Gesù un olio costosissimo, gesto per il quale è criticata dai discepoli, e invece magnificata in questo modo da Gesù. In verità vi dico che per tutto il mondo dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei, Matteo 26:13. Non dimentichiamo che Gesù salva la donna adultera da un ingiusto giudizio, Giovanni 8:1-11, mentre alla donna samaritana Gesù rivela delle profonde verità cristiane, Giovanni 4:1-26. Gli evangelisti riportano che alcune donne sostenevano finanziariamente il ministero di Gesù, Luca 8:1-3. Le donne ai piedi della croce dimostrano la loro riconoscenza, il loro coraggio e il loro attaccamento a Gesù. Ciò era di esempio agli apostoli. Matteo 27, 55. Nei Vangeli è narrato che il mattino di Pasqua le donne furono le prime a constatare che il sepolcro era vuoto, ad incontrare Gesù, ad essere incaricate di portare il messaggio del Vangelo. Luca 24, 1-12. Inoltre la prima riunione di preghiera dei cristiani era promiscua, composta di donne e di uomini. Atti 1 e 14. Non vi era un'entrata separata, né delle griglie o dei paraventi, come nelle sinagoghe. I primi cristiani continuavano a comportarsi semplicemente come avevano fatto quando erano con Gesù. Nel libro degli Atti leggiamo che erano le donne ad accogliere i cristiani in difficoltà per pregare, Atti mezzogiorno 12. E, importante ricordare che il primo uditorio europeo era di sesso femminile, Atti 16, 13, 15, che il giorno della Pentecoste, lingue somiglianti a fiamme di fuoco, si posarono su ciascuno di coloro i quali erano riuniti e le donne non ne erano escluse, Atti 1, 14, 21. Quel giorno le donne ricevettero anch'esse lo Spirito Santo e Pietro nel suo primo messaggio evangelico ricordò che si stava realizzando l'adempimento di una profezia. Sia gli uomini sia le donne avrebbero profetizzato. Atti 2, 14, 18. Non stupisce quindi che Filippo l'evangelista avesse quattro figlie che profetizzavano. Atti 21, 9. Come non stupisce che Paolo dia per scontato che la donna preghi o profetizzi, 1 Corinzi 11, 5. Avvertendola però di farlo col capo coperto. Può una donna di oggi avere meno importanza in una chiesa? Che la donna possa profetizzare non è messo in discussione, ma cosa significa che la donna possa profetizzare in una chiesa? L'Apostolo Paolo lo chiarisce in uno dei brani volto ad insegnare come ci si deve comportare quando si è riuniti. Desiderate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che possiate profetizzare, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. Chi profetizza, invece, parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa, 1 Corinzi 14. Profetizzare significa quindi parlare per edificare, per esortare e consolare. Non vi è accenno ad una posizione di comando. Chi profetizza edifica la Chiesa e ciò presuppone un'attività in pubblico. Limitare quindi il ruolo della donna nella Chiesa a semplice uditore equivale a paralizzare metà del corpo di Cristo. Significa ritrovarsi con un corpo emiplegico. E se l'emiplegia è la paralisi o la perdita dei movimenti volontari di tutta una metà del corpo causata da una lesione dei centri del cervello, allora se il corpo spirituale è paralizzato per metà, significa che il capo, cioè l'uomo, non funziona correttamente. La Santa Scrittura afferma che Dio ha dato ad ogni credente, compreso le donne, dei doni, perciò vi sono compiti maschili e femminili. Se è vero che essere capo e conduttore spetta solo all'uomo, questo non vieta alla donna di avere il dono e ruolo di evangelista, di profeta, di insegnamento, di ospitalità, di cura d'anime. Ciò che è vietato alla donna è il ruolo di comando, l'esercitare l'autorità sull'uomo. Per comprendere quest'ultima espressione, paragoniamo la conduzione di una chiesa a quella di una fabbrica. Vi è il datore di lavoro, padrone, e vi sono i capi reparto. Il datore di lavoro decide l'andamento della fabbrica, i capi reparto hanno autorità sugli altri operai, autorità questa sottomessa a quella del datore di lavoro. Similmente la donna, se ne ha le capacità, può svolgere il ruolo di capo reparto all'interno di una chiesa, cioè insegnare ai bambini, profetizzare, condurre riunioni, ma non può svolgere il ruolo del datore di lavoro. Sottomissione non equivale a soffocare doni e capacità. Leggiamo nella parola di Dio che Evodia e Sindiche, due donne, avevano evangelizzato insieme a Paolo, Filippesi 4:3, e che Aquila e Priscilla, due sposi, avevano evangelizzato e insegnato ad Apollo, Romani 16:3, mentre al tempo dell'apostolo Paolo tre sorelle si erano affaticate nel Signore, Romani 16 e 12. Non è nessun dono che Dio abbia conferito alla donna, del quale la Chiesa non abbia bisogno. Se si vuole costruire in modo equilibrato e sano una Chiesa, occorre che la donna svolga i compiti a lei assegnati. Dopo aver considerato chi costruì, vediamone le modalità. Costruirono uno vicino all'altro, e, per brevità leggiamo solo qualche testo. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Meremot, figlio di Uria, figlio di Coz. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Meshulam, figlio di Bercaia, figlio di Meshezabil. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Zadok, figlio di Baana. Vicino a loro lavorava alle riparazioni di fronte alla sua casa, Gedaia, figlio di Harumath. Vicino a lui lavorava alle riparazioni Hattush, figlio di Ashabneia. Al di sopra della porta dei cavalli, i sacerdoti lavorarono alle riparazioni, ciascuno di fronte alla propria casa. Dopo di lui Hananaia, figlio di Shelemaia, e Hanun, sesto figlio di Zalaf, ripararono un'altra parte delle mura. Le parole chiave di questo capitolo sono «vicino a loro», «lavorò» oppure «dopo di lavorò». Queste espressioni si trovano più di 20 volte. Ciò fa pensare che essi lavoravano spalla a spalla. Perché questo modo di lavorare? Perché c'erano dei nemici, per cui lavorando a stretto contatto essi erano più forti e, vedendosi, si facevano coraggio a vicenda. Anche la Chiesa ha i suoi nemici, e se i credenti lavorano, camminano, vivono vicini, sono più forti, quanto è necessaria la vita comunitaria? A volte pensiamo che la nostra presenza nella Chiesa valga poco. Se sapessimo invece cosa significa vedere un fratello all'opera, se fossimo coscienti di cosa significa essere presente alle riunioni, forse tu metti un solo mattone mentre l'altro ne mette 10. Forse ti senti meschino, inferiore, ma ricordati che se l'altro ne mette 10 è perché tu sei lì, perché tu ne metti uno. Come disse qualcuno, ciò che è in alto non si regge senza ciò che è in basso. Quindi, se tu metti un mattone, ne aggiungi uno ai 10, già posati dall'altro, mentre l'altro ne mette 10 più uno, il tuo. Conclusione. Facciamo tutti lo stesso lavoro. Un esempio di lavoro di armonia è l'episodio del paralitico al tempo di Gesù. Quando i quattro uomini calarono il paralitico, dovettero agire con movimenti sincronizzati, altrimenti sarebbe caduto. Stessa armonia occorre nella vita di Chiesa. Il più forte non disprezzi il più debole, e il più debole non disprezzi il più forte. Romani 14. 1-3. La Chiesa ha bisogno di uomini che abbiano la visione di Chiesa. Non si costruisce una Chiesa se il lavoro è sparso e senza alcun obiettivo. Occorre essere uniti, e questo si riferisce alla preghiera. Occorre vedersi, e questo ci parla della comunione fraterna. Chi costruiva le mura lasciava un lavoro finito. I figli di Senaa costruirono la porta dei pesci. Ne fecero l'intelaiatura e vi misero i suoi battenti, le serrature e le sbarre. 3. Notiamo che i figli di Senaa completarono una porta. La fecero bene e sicura. Cosa sarebbe successo se i figli di Senaa avessero costruita la porta senza sbarre? Sarebbe stata debole. Così è nella Chiesa. Non importa la dimensione della mole del lavoro svolto. L'importante è fare ogni cosa bene. La Chiesa prosegue il suo cammino quando si fanno piccoli passi, ma fatti bene. Di tanto in tanto una Chiesa dovrebbe fare il punto della situazione per vedere se tutto procede bene e non solo se con un passo spedito. A volte si fanno campagne di evangelizzazione, ma chi si interessa dei vari risultati? Se vi sono persone che accettano la nuova fede, chi è incaricato a seguirne il cammino perché arrivino ad una certa maturità cristiana? Coloro che diventano figli di Dio per la fede in Cristo sono come dei bambini che entrano in questo mondo. Hanno bisogno di ogni cura e di crescere sani e forti. Non dimentichiamo che l'Apostolo Paolo ha paragonato il credente proprio a dei bambini e a degli uomini adulti. Infatti così scrisse: «Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte, e non vi ho dato del cibo solido perché non eravate in grado di assimilarlo, anzi non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali». 1 Corinzi 3.12. Questo discorso fa comprendere che Paolo aveva delle difficoltà di comunicazione. Non era tanto perché non sapeva parlare, ma perché i suoi ascoltatori non erano in grado di comprendere ciò che voleva dire, e per questo era costretto a esprimersi con dei ragionamenti elementari, adatti a persone carnali, come a bambini in Cristo. Interessante. Molto interessante. Paolo ha paragonato i bambini in Cristo a uomini carnali. Perché? E forse è un male essere bambini in Cristo? No. Perché deve esserci pure una nuova nascita. Ma l'errore sta nell'essere bambini anche dopo 10, 20 o 30 anni di vita cristiana. Così se nelle chiese ci sono uomini e donne che non sono cresciuti nella conoscenza, la chiesa ha elementi carnali e sarà elementi carnali e sarà impedita a crescere come si deve. Abbiamo noi l'obiettivo non solo di portare alla salvezza le anime perdute, ma anche di nutrirle della parola di Dio. Altro aspetto rilevabile negli addetti alla costruzione delle mura di Gerusalemme è che operarono secondo il loro coraggio e capacità. Così leggiamo. Dopo di loro Beniamino e Hashub lavorarono alle riparazioni di fronte alla loro casa. Dopo di loro Azaria, figlio di Maaseia, figlio di Ananaia, lavorò alle riparazioni presso la sua casa. Dopo di lui Binnui, figlio di Enadad, riparò un'altra parte delle mura, dalla casa di Azaria fino alla svolta, cioè all'angolo. Palal, figlio di Uzzai, fece riparazioni di fronte alla svolta e alla torre sporgente dalla casa superiore del re, che era vicino al cortile della prigione. Dopo di lui fece riparazioni Pedaia, figlio di Parosh. I Netini, che abitavano sull'Ofel, fecero riparazioni fin davanti alla porta delle acque, verso est, e di fronte alla torre sporgente. Al di sopra della porta dei cavalli, i sacerdoti lavorarono alle riparazioni, ciascuno di fronte alla propria casa. Dopo di loro Zadok, figlio di Immer, lavorò alle riparazioni, di fronte alla sua casa. 3:23-32. Ci furono persone che svolsero una certa mole di lavoro lontano da casa. Altri lavoravano solo vicino a casa. Perché? Forse quelli che lavoravano vicino a casa avevano paura del pericolo dei nemici intenzionati a ucciderli. Ma fecero comunque qualcosa. Un qualcosa che aiutò a concludere il lavoro della ricostruzione delle mura. Così è nella Chiesa. Non tutti hanno lo stesso dono, né il medesimo coraggio, e come testimoniari di Cristo. Vi sono persone che predicherebbero sempre e ovunque, altre sono meno intrepide nel predicare l'Evangelo, ma testimoniamo volentieri a vicini e parenti. Anch'io non mi sento portato a cacciare le anime, ma appena vi è un minimo contatto, sono pronto a parlare. Del resto, il compito principale di ogni cristiano non è evangelizzare, ma testimoniare. E la testimonianza inizia dalla propria casa, dai vicini. Leggiamo in Atti 9:31 che la Chiesa nascente moltiplicava. Noi a volte guardiamo la prima Chiesa con invidia e vorremmo essere così pure noi, eppure non vi è niente di più facile che crescere come i primi cristiani. Se ognuno di noi porta in un anno una sola anima a conoscere Cristo, Gesù entro 5 anni, un qualsiasi locale di culto diventa insufficiente a contenere i credenti. Se oggi siamo in 10 credenti a trovarci in una casa o in piccolo locale, con il principio della moltiplicazione, quest'altro anno saremmo in 20 e l'anno successivo in 40. Il quarto anno saremmo in 80 e il quinto anno saremmo in 160. Se poi una chiesa di 10 membri si moltiplica ogni anno, in 10 anni arriva ad avere circa 5.000 membri. Se poi nella pratica non tutti portano a Cristo, un'anima, anziché essere 5.000, si potrebbe arrivare a 3.000 o 2.000 persone convertite. Niente male, vero? Ecco una visione da avere, da chiedere, da perseguire. Per quanto mi riguarda, devo confidare che in 40 anni di vita cristiana ho portato alla conoscenza di Cristo almeno un'anima. Ogni anno. Uno dei tanti regali di Dio. Alcuni di coloro che costruivano le mura di Gerusalemme lo fecero con ardore. Dopo di lui Baruch, figlio di Zabbai, ne riparò con ardore un'altra parte, dall'angolo fino alla porta della casa di Eliashib, il sommo sacerdote. 3:20. Dunque, in questo lungo elenco di nomi spicca Baruch, il quale lavorò con ardore. Molti lavorano nella vita secolare e nel campo di Dio, ma è difficile trovare gente che lavora con ardore. Vedere lavorare con ardore fa piacere, stimola a farlo a propria volta. Forse uno degli ostacoli nel campo di Dio è proprio dato dall'operare con la voglia di non lavorare. Questo demoralizza. Spesso penso al profeta Geremia, che scrisse: «Maledetto colui che compie l'opera dell'Eterno fiaccamente», Geremia 48:10. Forse sono anch'io responsabile se la Chiesa si trascina. Il mio modo di servire, di predicare, di esprimere il mio dono, che scoraggia. Ricordiamoci che ci influenziamo a vicenda. Vivo io allegramente la vita di Chiesa. E, un peso per me frequentare le riunioni e essere cristiano? Qualcuno ha detto, la correttezza di ciò che facciamo spesso è qualificata dalla qualità emotiva generata dal nostro comportamento. In altre parole, se una certa cosa ti fa sentire bene, falla. Questo è il metro più deleterio che esista. Eppure, noi siamo chiamati a compiere la volontà di Dio, sia che ne abbiamo voglia oppure no. È vero che siamo chiamati ad avere zelo, ad agire con ardore, ma se questo non ci è, dobbiamo ugualmente servire. Paolo disse: «Se io predico l'Evangelo non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio contro voglia, rimane sempre un incarico che mi è stato affidato». 1 Corinzi 9:16-17. Paolo era cosciente di dover predicare l'Evangelo in qualsiasi stato d'animo si trovasse. E tu esprimi il tuo dono nello stesso modo? Oh, se tutti esercitassimo al servizio della Chiesa i nostri doni, indipendentemente dallo stato d'animo in cui ci troviamo, e se lo facessimo con zelo. Ma per fare questo occorre anche della costanza, un argomento che tratteremo fra poco. Abbiamo considerato fino ad ora che per crescere come Chiesa occorre l'aiuto di tutti. Occorre l'aiuto di grandi e piccole personalità. Occorre l'aiuto delle donne. Occorre costruire stando molto vicini. Occorre costruire con coraggio e con ardore. Se vi sono queste caratteristiche unite alla gioia di servire Cristo e non di servirci di Cristo, vedremo con gli occhi di Dio crescere la Chiesa alla quale apparteniamo. Prendiamo ora in esame un'altra virtù di Neemia, per la quale la sua grande impresa di costruire le mura di Gerusalemme in tempi difficili si è resa possibile. Circostanza che useremo come paragone per vedere come costruire la Chiesa alla quale apparteniamo. Questa virtù è stata la costanza. Abbiamo preso atto che una Chiesa si costruisce se vi è la visione, se vi è l'obiettivo di vederla crescere. Abbiamo constatato come questo sia possibile solo se vi è la partecipazione di tutti i credenti. Ora prendiamo in esame la costanza, un elemento importante come la visione e l'aiuto. Perché se senza visione non vi è l'aiuto, è anche vero che senza costanza nessun lavoro è portato a termine. Dobbiamo dirlo subito. La costanza è un elemento raro nel campo del regno di Dio. È una delle virtù poco comune. Vediamo uomini e donne che per ottenere successo nello sport o nella politica hanno una costanza da invidiare, mentre il cristiano davanti al quale si prospettano una meta è una corona incorruttibile, eterna, spesso, non riesce ad eguagliare la loro costanza. quante persone sono partite bene nel campo di Dio con un amore e uno zelo da far arrossire i più deboli, ma in seguito sono arrivate male o non sono addirittura arrivate. Queste considerazioni sono quindi di una importanza vitale. Come abbiamo già notato, prima di Neemia altri tentarono di ricostruire le mura, ma non vi riuscirono, fallirono nel loro tentativo. Essi avevano incrociato degli ostacoli che non erano stati capaci di superarli. Anche Neemia incappò in certi ostacoli, ma, come egli li superò, sarà per noi un esempio per affrontare le difficoltà che incontriamo e incontreremo per crescere come Chiesa. Per prima cosa non dobbiamo dimenticare che l'opera che procede da parte di Dio incontra sempre ostacoli. La testimonianza di Neemia è di conforto per tutti noi. Quando Sanballat venne a sapere che noi stavamo ricostruendo le mura, si adirò, si indignò grandemente e schernì i giudei, e disse davanti ai suoi fratelli e soldati di Samaria: «Che cosa stanno facendo? Questi rammolliti giudei si fortificheranno, offriranno sacrifici, finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere le pietre consumate dal fuoco dai mucchi di macerie?» Tobia l'ammonita, che gli stava a fianco, disse: «Costruiscano pure, ma se una volpe vi sale sopra farà crollare il loro muro di pietra.» 4:1-3. Chi lavora nel campo di Dio è cosciente che le cose non vanno sempre lisce, e questo non lo si dice per vittimismo o perché si ha voglia come tutti di lamentarsi, ma per due principali realtà. La prima realtà la si trova in quella parte della scrittura che afferma: «Ho visto che ogni fatica e ogni successo nel lavoro risultano in invidia dell'uno contro l'altro», Ecclesiaste 4:4. Nel mondo secolare si trovano sempre persone invidiose per il successo di altri, e questo vale anche per il mondo spirituale. Sembra incredibile, ma è così. Quando tocco questo argomento, la mia mente ricorda impulsivamente ciò che Paolo ha scritto ai credenti che abitavano a Filippi. «Ora, fratelli, voglio che sappiate che le cose che mi sono accadute sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che è noto a tutto il pretorio e a tutti gli altri che io sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno appreso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Alcuni in vero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contesa, non puramente pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa, comunque sia, o per pretesto, o sinceramente Cristo è annunziato, e di questo mi rallegro, anzi me ne rallegrerò, anche per l'avvenire». Filippesi 1:1-18. Forse siamo stupiti che al tempo di Neemia alcuni erano invidiosi perché delle mura venivano costruite, ma cosa dire di coloro che predicano l'Evangelo per invidia o per litigare? Non ci sono parole. La seconda ragione a causare opposizione quando si compie la volontà di Dio è che il mondo è il campo di battaglia tra Dio e Satana, quindi niente di strano che il diavolo cerchi in tutti i modi di impedire il successo dell'opera di Dio. Sta scritto: «Quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che osservano la legge fanno loro guerra». Proverbi 28:4. Una guerra non fisica, naturalmente, ma spirituale. Penso a proposito a quell'aguzzino che stava torturando un cristiano dicendo con orgoglio: «Tu dici che il tuo Dio è potente, ma io sono più potente di lui perché io ti ho vinto». «Ti sbagli», rispose il cristiano. «La vittoria è dalla mia parte, perché mentre tu mi odi, io ti amo». I nemici di Neemia pongono delle insidiose e provocatorie domande, domande che urtano più di uno schiaffo. Chi ha il desiderio di crescere come Chiesa sarà certamente schermito da chi non ha questa visione, ma la sua vittoria sarà nel continuare con gioia l'opera che sta svolgendo. E, alla fine, come il giovane Davide che veniva schernito dai suoi fratelli, porterà la testa di Golia. Ciò che vince il mondo, l'incredulità, l'ingiusta, L'opposizione è la nostra fede nel Dio sovrano. Quando si lavora nel campo di Dio è indispensabile compiere ogni cosa secondo i metodi di Dio. E uno di questi metodi è la preghiera. Dopo essere stato disprezzato e schernito, Neemia esprime questa preghiera. Ascolta, o Dio nostro, perché siamo disprezzati. Fa ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandonali al saccheggio in un paese di schiavitù. Non coprire la loro iniquità e non permettere che il loro peccato sia cancellato davanti a te, perché ti hanno provocato ad ira davanti ai costruttori. 4:4-5. Quando si è scherniti, le reazioni non possono essere tante. O rispondere per le rime, cosa che servirebbe solo a stare al gioco degli schernitori, oppure confidare in Dio. Neemia e i giudei pregarono. Non si parlerà mai troppo della preghiera e della necessità di pregare, perché se noi crediamo che l'opera di Dio sia portata avanti da Lui stesso, allora il nostro primo compito non sarà quello di agire, ma di stare in comunione con Dio. Soltanto Dio può spostare le montagne, ma la fede e la preghiera spostano Dio. Senza preghiera non si costruisce nulla di duraturo. Ma perché è così difficile pregare? Perché è più facile parlare tutto il giorno di Cristo che stare solo un'ora di preghiera? Le ragioni sono tante. La prima è senz'altro perché la preghiera non rientra fra le nostre inclinazioni naturali e giustamente qualcuno ha detto: dobbiamo pregare quando siamo ben disposti perché sarebbe un peccato sciupare una così buona occasione. E dobbiamo pregare quando non siamo ben disposti perché sarebbe pericoloso continuare a rimanere in uno stato così insano. Un'altra ragione del perché facciamo fatica a pregare è che quando si prega sembra di non fare nulla, e fare nulla è la cosa meno gratificante. Infatti la cosa più difficile per noi uomini non è l'operare, ma il restare inerti davanti a Dio. È più difficile aspettare che agire, è più difficile tacere che parlare. Ecco perché è stato detto che la preghiera rafforza i deboli e indebolisce i forti. Pregare è anche un segno di umiltà. Coloro che sono soddisfatti di sé non vogliono pregare. Coloro che sono autosufficienti non hanno bisogno di pregare. Coloro che sono convinti di sé non possono pregare. Generalmente sono proprio le persone che non pregano a non aver tempo, mentre chi si prende tempo per pregare ha anche tempo per ogni altra cosa da fare. Sono troppo occupato, disse ironicamente Lutero, per pregare meno di 3 ore al giorno. La Bibbia ci ricorda il valore della preghiera. Eliezer prega e compare Rebecca. Mosè prega e il mare rosso si divide. Mosè prega e l'acqua esce dalla roccia. Giosuè prega e il peccato di Acan è scoperto. Anna supplica l'Eterno e riceve un figlio. Samuele prega e i filistei sono sconfitti. Davide prega e il consiglio di Ahitofel è annientato. Giosafat prega e Dio sconfigge i suoi nemici. Isaia prega e 185.000 uomini cadono morti. Esdra prega e il cuore del re si arrende. Elia prega e viene Daniele prega e il sogno del re è rivelato. Pietro prega e la ragazza di nome Dorcas risuscita. La chiesa prega e Pietro è liberato. Paolo e Sila pregano e le porte della prigione si aprono. I primi cristiani pregano e la terra trema. La tua chiesa cresce, perché ci che chi prega. Satana potrà costruirci un muro intorno per impedire che ci muoviamo, ma non può costruire un tetto sopra di noi per impedire che ci rivolgiamo a Dio. A volte siamo scoraggiati perché non vediamo risposte da parte del nostro Dio Trino. Ma spesso accade di sperimentare la stessa esperienza capitata a un fratello. Egli si lamentava verso Dio dicendo: Signore, io ho pregato, pregato e pregato, e tu non hai risposto. E Dio gli rispose: figliolo, io ho risposto, risposto e risposto. Perché non hai ascoltato? Perché è così difficile comprendere le risposte di Dio? Perché le risposte di Dio sono più sagge delle nostre richieste? Cosa vuol dire un simile discorso? Per rispondere, occorre tenere presente ciò che troviamo scritto nel profeta Isaia. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, Così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Isaia 55.89. Se prendiamo sul serio ciò che è scritto, se ci crediamo fino in fondo, significa che l'intelligenza o la saggezza di Dio non sono percepite subito dalla nostra logica o razionalità. Per cui, spesso, le sue risposte sono profondamente inaspettate e giungono in modi imprevisti. Le sue risposte sono più sagge delle nostre richieste. Tu preghi perché Dio benedica materialmente una persona. E lui risponde creando le grosse difficoltà affinché mediante la prova la sua fede venga fortificata. Per Dio hanno più valore le cose eterne. Noi abbiamo acquisito questa mentalità. Come prova della veridicità di quanto stiamo affermando, leggiamo nella testimonianza di Neemia che le difficoltà nel costruire le mura aumentarono. Quando però Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei vennero a sapere che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si adirarono grandemente e tutti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi disordini. 4:7-8. Così è nella vita di Chiesa. Le difficoltà non sono sempre uguali. Esse aumentano in proporzione alla sua crescita. Un esempio significativo lo abbiamo nella comunità dei primi cristiani, dove troviamo scritto che in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Atti 6:1. Non dobbiamo scoraggiarci se le difficoltà aumentano man mano che la Chiesa cresce, perché questo è un segno positivo di salute spirituale. La Chiesa è simile ad un bambino, il quale, finché è piccolo, dà problemi piccoli, ma divenuto grande porterà difficoltà maggiore. A proposito delle difficoltà che aumentano con il progredire dell'opera di Dio, penso spesso all'episodio unico e irrepetibile di quando il popolo di Israele è stato liberato dalla schiavitù d'Egitto al tempo di Mosè. Poi l'Eterno disse a Mosè: «Levati al mattino presto, presentati davanti al Faraone e digli: così dice l'Eterno, il Dio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo, perché mi possa servire. Poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe proprio su di te, sui tuoi servi e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra. Infatti, se io ora avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato cancellato dalla terra. Ma proprio per questa ragione ti ho risparmiato, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra». Esodo 9.1-3.16. Quello che ha detto l'Eterno in questa occasione mi ha risolto in gran parte il problema della sofferenza. L'Eterno poteva annientare subito il Faraone, ma non lo ha fatto, perché i giudizi che avrebbe operato lo avrebbero onorato e glorificato. Non è forse così anche per noi? Quante volte difficoltà irrisolvibili per noi sono state risolte magistralmente dagli eventi guidati da Dio e le persone sono rimaste confuse? Le difficoltà sono un'opportunità offerta da Dio perché l'uomo riconosca Cristo come il Dio della sua vita. Vi è un aspetto della preghiera di Neemia che potrebbe anche non essere preso in considerazione, ma ritengo opportuno metterlo in evidenza perché può chiarire la cultura dei credenti dell'antico patto e il perché pregassero in quel modo. Rileggiamo la preghiera di Neemia. Ascolta, o Dio nostro, perché siamo disprezzati. Fa ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandonali al saccheggio in un paese di schiavitù. Non coprire la loro iniquità e non permettere che il loro peccato sia cancellato davanti a te, perché ti hanno provocato ad ira davanti ai costruttori. 4:4-5. L'intensità dei sentimenti nei confronti dei loro simili provati dai credenti prima della venuta di Cristo può indurci a pensare che fossero di scarso valore e di dubbia utilità, ma come qualcuno disse, una simile reazione non è simpatica e neppure necessaria. Infatti, sentire pregare affinché il peccato dei propri nemici non venga cancellato, quando invece Gesù sulla croce disse: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, sembra volerci fare passare dal mondo della totale vendetta al mondo del totale perdono. Due mondi apparentemente diversi. Ma le cose non stanno così. Dobbiamo arrivare alla convinzione che sia un errore intendere certi impulsi, quali espressioni di un sentimento subcristiano e degenere, permesso ai credenti dell'antico patto, in attesa di una maggiore rivelazione. Innanzitutto perché quando parliamo di rivelazione progressiva, non intendiamo il passaggio dall'errore alla verità, ma un progresso da una verità oscura e parziale ad una verità più chiara e completa. Inoltre, un altro concetto che dobbiamo demolire è quello secondo il quale l'antico patto si basa su di una morale subcristiana. Infatti anche l'antico patto insegnava il dovere dell'amore come fa il nuovo. Ecco alcune leggi da tenere sempre in mente. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Esodo 23, 4 a 4. Non opprimere lo straniero. Proverbi 23, 9. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Proverbi 25, 21. Quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare. Proverbi mezzanotte 17. Ama il prossimo tuo come te stesso. Levitico 19 e 18. Tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra di voi. Tu lo amerai come te stesso. Levitico 23, 9. Non si può nascondere che anche certe preghiere erano impregnate del messaggio di Cristo. Mi percuota pure il giusto. Sarà un favore. Mi riprenda pure. Sarà come olio sul capo. Il mio capo non lo rifiuterà. Io continuo a pregare mentre fanno il male. Salmo 141, 5. Non si è, forse, Gesù, ispirato alle parole del salmista, quando ordinò ai suoi discepoli di pregare per i nemici? Quanti sono i cristiani che continuano a pregare mentre vengono maltrattati? Una terza ragione per la quale i sentimenti dei credenti dell'antico patto non sono subcristiani è che in loro non vi è un sentimento di vendetta, ma di giustizia. Sono sentimenti di profondo amore per Dio, per la sua causa. Del resto questo è anche il modo di pregare dei credenti dopo la nascita di Gesù Cristo sulla terra. Quando pregano per il ritorno di Cristo e per il suo regno, pregano in modo diretto che i malvagi vengano sconfitti e che l'empio riceva la sua giusta retribuzione. Questi aspetti ci portano a riaffermare che certe preghiere colme di imprecazioni scaturiscono da sentimenti cristiani. Perché il nostro cristianesimo non diventi sentimentale, moralista, è forse giusto rivedere il nostro modo di pregare e di intendere la santità di Dio e quella del cristiano. Il fatto che oggi noi cristiani viviamo un cristianesimo superficiale è probabilmente dovuto a una mancanza da parte nostra nel vivere intensamente i sentimenti di Dio. Non possiamo amare la verità senza odiare il peccantico testamento, senza avere verso ciò che è ingiusto una forte avversione. Aborrite il male, ordina Paolo in Romani 12, 9, cioè separatevi, distaccatevi da esso. E dal momento che il male non è impersonale, una forza oscura, ma è una realtà connessa all'uomo, la separazione si deve manifestare non solo nei confronti del male, ma anche di chi lo commette. E che dire quando l'apostolo Paolo disse: ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Galati 1, 8 a 9. Ritenere anatema qualcuno significa ritenerlo maledetto, scomunicato. Apparentemente sembra una mancanza d'amore, ma si tratta solo di quei giusti e santi sentimenti che animavano i credenti prima della venuta di Cristo. Forse il peccato del credente del XXI secolo è quello di mescolarsi con il mondo, di vivere nel compromesso, di essere un abile giocantico testamento ore delle cose di Dio, in modo che dica tutto, senza traumantico,

2 Timoteo 4 e 18. L'Apostolo non era tanto preoccupato di essere liberato dalla sofferenza o dai suoi nemici quanto dal commettere atti che avrebbero offeso e disonorato Dio. Stupendo sentimento. I credenti, prima della nascita di Cristo, non erano da meno. Più volte troviamo nelle loro preghiere l'invocazione di essere esaminati, investigati, giudicati da Dio, al fine di poter essere santi in tutta la loro condotta. Salmi 7:8, 26:2, 139:23. Chi di noi si presenta a Dio con la richiesta di essere da Lui giudicato? Questo è il cristianesimo, amare il bene, essere irreprensibili nella santità, odiare il male e pregare perché esso venga eliminato. Siamo noi di quelli che attendono e affrettano la venuta di Gesù Cristo con una condotta santa e aspettano nuovi cieli e nuova terra dove regnerà la giustizia. Neemia ci ha insegnato anche questo. Torniamo un attimo ai giudei per vedere come crebbero le opposizioni e cosa dissero i loro nemici. Per prima cosa, i nemici dei giudei affermarono che non avrebbero avuto successo. Quando però Sanballat l'oronita e Tobia il servo ammonita e Geshem l'arabo vennero a saperlo, ci schernirono e ci disprezzarono dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? 2:19-20. Poi dichiararono che il lavoro non sarebbe durato. Tobia l'ammonita disse: costruiscano pure, ma se una volpe vi sale sopra, farà crollare il loro muro di pietra. 4:1-3. In seguito pensarono di creare del disordine. Quando però Sanballat, Tobia, gli arabi, gli ammoniti e gli asdodei vennero a sapere che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si adirarono grandemente e tutti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi disordini. 4:7-8. Non contenti di creare del disordine, i nemici dei giudei annunciarono che li avrebbero uccisi. Inoltre i nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché noi piomberemo in mezzo a loro e li uccideremo. Così faremo cessare i lavori. 4:10-11. Infine tentarono di infangare il loro conduttore, cioè Neemia. Shemaia, figlio di Delaia, figlio di Metabel, era stato pagato proprio per questo, per farmi paura e indurmi ad agire in quel modo e a peccare, e così acquistare una cattiva fama e coprirmi di vergogna. 6:10-13. Queste letture mettono in evidenza l'opera di Satana in una chiesa che desidera crescere. Per prima cosa suscita nel cuore dei credenti l'idea che le iniziative prese non avranno successo. Quante iniziative vengono prese e poi non sono portate a termine? Penso alla chiesa alla quale appartengo, quando proposi di comprare un locale più grande perché quello dove eravamo era diventato, grazie a Dio, piccolo. Parlammo, riflettemmo e decidemmo di trovarci per decidere. La riunione prese una certa piega, vi era un certo scoraggiamento e per giungere alla conclusione che non si poteva comprare la sala e la nuova sala non si comprava, se non fosse che avanzai una proposta concreta, pratica, realizzabile, che fu accettata da tutti con gioia. La sconfitta era già determinata e solo grazie a Dio le cose cambiarono. Come è facile cadere sotto ai colpi dello scoraggiamento? I nemici di Neemia dissero che il lavoro non sarebbe durato e Satana, la scimmia di Dio, fa lo stesso. Iniziare una cosa è sempre facile, ma chi la porta a termine? Proprio perché questa è la tattica di Satana. Proposi alla Chiesa di consacrare la tredicesima della busta paga all'acquisto della sala. Non solo, però, per un anno o per due, ma per vari anni. Solo così potemmo comprare il locale di culto. Però Satana rimane vigile e cercherà in tutti i modi di impedire la realizzazione dell'obiettivo. L'amore e lo zelo per l'opera di Dio, tuttavia, vincerà ogni ostacolo. Infatti, non tutti coloro che avevano deciso di donare una certa quota lo fecero e questo avrebbe messo in serie difficoltà la compera del locale, ma altri aiuti inaspettati arrivarono. Dio ci aveva protetti. Passò del tempo e venne la necessità di comprare un altro locale. Anche questa volta alcuni, esercitanti un certo ascendente nei confronti della Chiesa, derisero la proposta perché per loro era irrealizzabile. E, da un punto di vista umano, questo era vero, perché chi comprava doveva comprare un locale a pian terreno, in una posizione non favorevole per qualche esercizio commerciale. Inoltre, era richiesta una cifra che sembrava impossibile. Avvenne il giorno che una donna impegnata in una associazione umanitaria per disabili ci offrì molto di più di quello che avevamo chiesto perché era contentissima del locale. Un altro miracolo era successo davanti ai nostri occhi. Alcuni rimasero increduli. Però in seguito non solo il contratto andò in porto, ma comprammo un locale più del doppio di quello che avevamo. Anche qui, ovviamente, con una buona dose di generosità economica. Avendo sperimentato in prima persona questi episodi di tensione, di lotta, uniti alla fede, non li ho più dimenticati. Ma quanto questi episodi influiscono nella vita dei credenti che non erano presenti? Ecco perché ogni generazione dovrebbe sperimentare la potenza di Dio con visioni divine. Il termine visione non può essere ridotto a un semplice elenco di intenti, ma si riferisce a progetti e pesi provenienti dalla preghiera. Perciò è salutare e raccomandabile che in ogni comunità vi siano uno o due membri sognatori. È vero che è difficile convivere con loro perché non sono mai contenti dello stato presente delle cose e sognano sempre ciò che potrebbe essere, ma eliminare, di fatto o moralmente, simili uomini a volte significa la morte di una chiesa. Una chiesa che ha un cammino difficile dovrebbe valutare quanto abbia fatto tacere la voce profetica. Come disse un apologeta cristiano, l'uomo che non ubbidirà alla saggezza degli altri né rischierà per se stesso di avventurarsi alla sua conquista, alla fine segnata. La società in cui i semplici ubbidiscono ai pochi profeti veggenti è una società che può vivere. Una società in cui tutti fossero profeti veggenti avrebbe una vita molto più piena e completa. Ma una società in cui la massa è ancora composta di semplici e non si dà più retta ai profeti, può arrivare solo ad essere superficiale, meschina, abietta, e alla fine a estinguersi. Dobbiamo andare avanti o andare indietro, restare fermi e morire. Cosa fecero gli addetti alla ricostruzione delle mura di fronte a tanta opposizione? Ma noi pregammo il nostro Dio, e a causa di loro ponemmo contro di loro delle sentinelle di giorno e di notte. 4.9. La reazione più spontanea per un credente è, certamente, mettere a conoscenza di Dio ogni problematica mediante la preghiera, ma sarebbe un errore fermarsi lì e aspettare a braccia conserte la risposta di Dio. Il più delle volte occorre anche reagire, compiere un'azione contrastante con la fiducia che Dio userà il nostro modo di procedere. Questo aspetto della preghiera è molto importante. Perché pregare non è solo rimanere in ginocchio e intercedere presso Dio, ma anche agire perché il bene trionfi e non lasciare che il male prevalga. Pregare è vincere il male con il bene, e il male si vince sia nel pregare per coloro che ci perseguitano, sia nel fare del bene al nemico che si trova nel bisogno, sia nel resistere al maligno. Tre azioni e reazioni molto concrete e pratiche. La preghiera diventerà non più una sporadica occasione, ma un lavoro vero e proprio. Agire a favore del nemico è impegnare del tempo prezioso a suo favore. Resistere al maligno è rifiutarsi di compiere azioni che non sono gradite a Dio. Del resto questa è stata la vita di Gesù Cristo. Quando si dice che egli pregava del continuo, non si vuole intendere che egli fosse sempre in ginocchio a pregare, ma che era incessantemente in comunione con il Padre. Infatti, quando Gesù scacciò il demone dal fanciullo epilettico, i discepoli gli chiesero il motivo per cui loro non vi fossero riusciti, e Gesù diede una risposta che lascia perplessi. Ora questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Matteo 17.21. Ora che Gesù fosse a digiuno, non vi sono dubbi. Ma in quale momento ha pregato? Non ci risulta che Gesù abbia pregato per il bambino, eppure, con la sua ininterrotta comunione con il Padre, ha potuto scacciare il demone. Evidentemente i discepoli non avevano uno spirito di preghiera. Come i giudei al tempo del copiere Neemia, il credente deve implorare Dio, ma contemporaneamente vegliare, stare in guardia, fare da sentinella e, se è necessario, agire, perché la Chiesa di Dio non si è impreparata al momento del ritorno di Cristo. Quando si compie un'opera per Dio è facile che arrivi lo scoraggiamento. Così leggiamo, quelli di Giuda però dicevano, le forze dei portatori di pesi vengono meno, e le macerie sono tante che noi non riusciremo a costruire le mura. Inoltre, i nostri avversari dicevano, essi non sapranno e non vedranno nulla, finché noi piomberemo in mezzo a loro e li uccideremo, così faremo cessare i lavori. 4, 10-11. Quando le opposizioni sono molte, è facile scoraggiarsi. Essi dissero, punto, noi non riusciremo a costruire le mura. Dobbiamo ammetterlo, scoraggiarsi è facile. E un arrendersi un capitolare di fronte a certe situazioni. In termini pugilistici è un gettare la spugna. Tutti, più o meno, siamo capaci di mostrare slanci di eroismo di fronte a situazioni negative o a intraprendere iniziative senza essere consapevoli di ciò a cui si andrà incontro, meno come nel caso di Cristoforo. Colombo, che scoprì l'America pensando di andare in India, meno, ma nel prolungarsi delle difficoltà è facile avvilirsi e fermarsi o tornare indietro. Personalmente ho trovato un modo per essere incoraggiato, un metodo molto semplice ed efficace, quello di leggermi storie che descrivono di chi è stato peggio di me e ha vissuto per Dio. Per fare questo è sufficiente prendere delle biografie di missionari, come per esempio Adoniram, Judson e la moglie Anna. Anna è ricordata nella storia delle missioni come la prima donna missionaria americana. Lei e il marito furono i primi missionari ad andare in Birmania. Quando arrivarono dopo 4 mesi di viaggio, fu ordinato loro di tornare indietro. L'indifferenza dei birmani era deprimente e, solo dopo 6 anni, videro il primo convertito a Cristo. In seguito, Judson dovette sopportare le terribili prigioni orientali per ben 20 lunghi mesi. Si dice addirittura che nella storia delle missioni non si trovi narrazione più terribile di quella della sua prigionia, al punto che perfino tra i racconti fantasiosi si è mai inventato un evento più terrificante. Anna si ammalò più volte di febbre tropicale e morì a causa di uno di questi attacchi. A soli 37 anni. Ai coniugi Adoniram toccò pure di dover porre nella tomba il loro primo nato, un bambino di 8 mesi. Eppure, come molti altri missionari, non si scoraggiarono di fronte a grandi sconfitte e privazioni, perché avevano un obiettivo molto superiore alle sofferenze che stavano attraversando. Se la Chiesa alla quale apparteniamo è molto importante per noi, saremo in grado di superare le difficoltà. Non sono solo certi missionari che sono in grado di darmi forze nuove e stimoli freschi, ma anche certe testimonianze che hanno veramente dell'incredibile. Ho letto la testimonianza di un giovane di 25 anni, il quale ha intestato il suo scritto con il versetto di Giacomo 1:2. Fratelli, considerate motivo di gioia incontrare prove di qualsiasi tipo. Questo ragazzo è laureato in economia e attivo come oratore nell'incoraggiamento. La sua passione principale è condurre anime a Cristo. Ama condividere la sua storia e testimoniare ovunque si presenti la possibilità. Niente di strano, direte voi. Sono migliaia di ragazzi che fanno questo, ed è vero. Ma vi è un particolare che agghiaccia. Questo ragazzo di Melbourne, in Australia, è in Antico Testamento, o senza braccia e senza gambe. Oltre a questo, quando è nato il 4 dicembre del 1982, persino suo padre, il quale era pastore della chiesa, e con lui tutta la comunità, si chiedeva, se Dio è un Dio di amore, perché ha permesso una cosa del genere? Per di più a dei cristiani consacrati? Una cosa è immaginarlo, altra cosa è vedere la foto di questo, tra l'altro, bellissimo ragazzo sorridente, su di un mobile come un busto di una scultura. Si rimane devastati. Eppure, questo ragazzo ha imparato ad essere indipendente nella cura della sua persona. Riesce a fare praticamente tutto, persino a radersi la barba. In casa si muove da solo. all'esterno con una carrozzina elettrica. Gli piace nuotare, pescare e giocare a calcio. Queste sono state le sue testuali parole. Inoltre continua nella sua testimonianza. Parla con passione ai giovani. E spesso è invitato nelle scuole di tutti i tipi. Ho imparato, continua, a seguire Dio ovunque mi chiama. Credo che se hai il desiderio ed una passione secondo la volontà di Dio, questi al momento giusto verranno esauditi. Umanamente ci poniamo sempre dei limiti, teniamo presente che sta parlando uno senza braccia e senza gambe, ma quel che è peggio è che mettiamo dei limiti a Dio. Lo mettiamo in una scatola. Dobbiamo spostare la nostra attenzione. Invece di concentrarci sulle nostre capacità, dobbiamo pensare alla nostra disponibilità. Perché la parola di Dio è chiara. E Dio che opera attraverso di noi e senza di Lui non possiamo fare nulla. Ma una volta che ci rendiamo disponibili a lavorare per il Signore, dovremmo contare sulle sue forze e non sulle nostre. In Filippesi 4:13 è spiegato bene. Io posso tutto in colui che mi fortifica meno. Dio ha un piano per la tua vita. Dopo queste parole, Nick termina con un vibrante appello. Ricorda che Dio è fedele, e quando chiediamo e ci sembra che Dio non risponda, ascoltiamo Geremia. Voi mi invocherete ed io vi esaudirò. Abbiate coraggio, amici. Ricordiamo ancora che sta parlando un ragazzo che è nato senza braccia e senza gambe, perché la battaglia è del Signore. Lottate per la verità che è in Gesù Cristo, che vi rende liberi. Possa il Signore benedire te che lo cerchi e ti possa donare forza e saggezza durante il tuo cammino. Al servizio di Cristo, Nick Vujicic. Periodico Ionian Friends, novembre 2009. Parole del genere, dette da un giovane nato senza braccia e senza gambe, non possono lasciare il tempo che trovano. O alzi le spalle e, noncurante, insensibile, segui la tua strada. Oppure, come succede a me, trovo nuove energie e nuove motivazioni per servire Cristo. Nella vita incontro difficoltà. La chiesa alla quale appartengo zoppica e traballa assieme a me, ma alla fine sono fisicamente normale. Mio figlio e tutti i miei nipoti hanno le gambe e le braccia, senza contare che vivo nella libertà e nella serenità. Ho la parola di Dio che mi consola, realizzo la preziosa comunione fraterna, ho amicizie importanti, convivo con fratelli e sorelle che mi vogliono bene, nonostante tutto. Non sono anche queste ragioni per servire sempre con zelo il mio Salvatore e Signore Gesù Cristo? Come se non bastasse, sono ancora impressionato dalla lettura di un libro di una giovane ragazza della Cisgiordania di nome Suaddad, rifugiatasi in Occidente mediante una organizzazione umanitaria perché era stata bruciata viva. Così descrive la condizione delle donne del suo paese. Laggiù una donna non ha vita. Molte ragazze vengono picchiate, maltrattate, strangolate, bruciate, uccise. E per noi è tutto all'ordine del giorno. Mia madre ha cercato di avvelenarmi per finire il lavoro di mio cognato, cioè di averla bruciata viva, e per lei era normale. Faceva parte del suo mondo. E così che cresciamo noi donne. Ti riempiono di botte, è normale. Ti danno fuoco, è normale. Ti strangolano, è normale. La mucca e le pecore, meno, diceva mio padre, meno. Valgono più delle donne. Se non si vuol morire bisogna tacere, obbedire, strisciare, sposarsi vergini e fare dei figli maschi. Se fossi rimasta nel mio paese è questa la vita che avrei avuto. Le mie figlie sarebbero diventate come me e le mie nipoti pure. Se fossi vissuta là sarei stata come mia madre che ha soffocato le sue bambine appena nate. Forse anch'io l'avrei fatto. Forse anch'io avrei fatto bruciare mia figlia. Adesso mi sembra mostruoso, ma se fossi rimasta al mio paese no. Quando ero all'ospedale, laggiù, e stavo per morire, pensavo ancora che tutto quello che mi stava succedendo fosse normale. Suad bruciata viva, edizioni PM, settembre 2008. Questi episodi mi toccano e proprio perché mi ridanno forza e nuovi stimoli, riporto un ultimo esempio di come le grandissime prove altrui mi siano di benedizione, rispondendo così ancora una volta all'antica, quanto drammatica domanda, perché?

abbiamo fiducia in lui dopo averlo pregato. Neemia dispose il popolo per famiglie. Forse non diamo molto peso a quello che ha fatto, ma il suo modo di operare è stato veramente saggio e accorto. Se egli non avesse disposto la difesa per famiglie, avrebbe fallito. Perché? Perché una famiglia è una cellula, è un corpo compatto, che può resistere molto di più che un gruppo di persone di ugual numero ma senza vincoli di sangue. E così è la Chiesa. Questo pensiero deve essere capito. In una Chiesa spesso vale più una famiglia fedele che altrettanti membri fedeli non uniti da un vincolo familiare. Una famiglia ha più ragioni per combattere: i figli, la casa, il senso di appartenenza. Neemia aveva capito la tattica della difesa, e questa è la sua testimonianza. Dopo aver esaminato la cosa mi levai, e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: non abbiate paura di loro. Ricordatevi del Signore grande e tremendo, e combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case. 4:14-15. Quando una famiglia combatte, combatte sì per la Chiesa, agisce sì per la verità, per dare gloria a Dio, ma anche perché se crolla la Chiesa, crolla il luogo dove essa si esprime, dove essa ha amici, dove vive gran parte della sua vita. È vero che si combatte per Dio, ma vi sono legami umani dal potere psicologico non indifferente. Spesso, sia i legami, sia le divisioni all'interno di una Chiesa sono dovuti a vincoli di sangue più che a ragioni spirituali. Ho conosciuto famiglie che se ne sono andate da una comunità a un'altra, anche perché nella nuova comunità c'era un gruppo di ragazzi coetanei dei loro figli. Giustamente, i genitori si preoccupano dello stato spirituale della Chiesa, ma a loro interessano ancora di più i figli, e che abbiano amicizie sane con le quali crescere. Una volta che le famiglie erano preparate, ecco che il popolo era pronto a combattere. Così leggiamo: da quel giorno la metà dei miei servi si occupava dei lavori, mentre l'altra metà impugnava le lance, gli scudi, gli archi e indossava le corazze. Quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano si occupavano dei lavori e con l'altra tenevano la loro arma. Così proseguivamo il lavoro, mentre la metà degli uomini impugnava la lancia dallo spuntare dell'alba fino all'apparire delle stelle. Né io, né i miei fratelli, né i miei servi, né gli uomini di guardia che mi seguivano ci toglievamo i vestiti, ma ognuno aveva la sua arma con acqua. 4:16-23. Questa sì che si dice determinazione e saggezza, perché la vita cristiana è un combattimento. Si lavora, ma nello stesso tempo occorre rimanere attenti contro il nemico. Si deve combattere contro le potenze malefiche, contro il mondo e contro i desideri della carne, anche se a volte ritirarsi è una saggia strategia. Quando gli israeliti combatterono contro la città di Ai la prima volta, combatterono valorosamente, ma furono sconfitti. La seconda volta, per strategia, finsero di ritirarsi e vinsero. È vero che il cristiano è stato salvato per combattere e non per ritirarsi, ma a volte è saggio ritirarsi da certe trappole o tattiche del nemico, perché come è sbagliato ritirarsi quando è il momento di combattere, così è sbagliato combattere quando è il momento di ritirarsi. Combattere o ritirarsi non ha importanza. L'importante è alla fine vincere. Neemia mette in evidenza la prontezza dei giudei. La metà dei servi di Neemia, quelli che costruivano le mura e portavano i pesi, mentre lavoravano avevano pronte le spade per combattere. La Bibbia si può definire un libro con un messaggio di pace, ma non conosco un libro che parli di spade, di lance e di scudi come questo. Nel primo libro, la Genesi, dopo che Adamo ed Eva avevano peccato, l'Eterno custodì l'Eden con dei cherubini muniti di spade. Nell'ultimo libro, l'Apocalisse, vediamo Gesù che aveva nella mano destra 7 stelle e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli. Acuta. Personalmente, credo poco ai simbolismi come figure che non hanno niente da dire. Quando la Bibbia parla di spade, esse sono spade. Non è detto che la loro struttura sia sempre di ferro, ma sono comunque sempre oggetti che colpiscono e difendono. Anche Gesù ha parlato di spade. Quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Essi risposero, niente. Ed egli disse loro, ma ora chi ha una borsa la prenda, così pure una sacca. E chi non ha spada venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto, egli è stato annoverato tra i malfattori. Infatti le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero, Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse loro, basta. Luca 22:35-38. Come succedeva, spesso i discepoli avevano compreso male. Pensavano a delle spade di ferro. Ma Gesù stava dicendo che essi, da ora in poi, dovevano praticare un metodo di esistenza diverso da quello adottato quando erano con lui. In pratica, egli approvava quei metodi legittimi di difesa personale e per colpire, simboleggiati nella spada, sarebbero stati necessari, quindi, la borsa, la tasca, la tunica e ogni mezzo lecito per la sopravvivenza, come pure l'annuncio della parola di Dio che è la spada dello Spirito, Efesini 6.17. Sì, perché la Chiesa non è composta da un nucleo di persone invertebrate, smidollate, senza carattere, senza polso. La Chiesa deve sapere vivere in pace, ma anche prendere coscienza di dover essere pronta a difendersi, se occorre, per il bene delle anime. Dovunque udrete il suono della tromba, là raccoglietevi, disse Neemia 4:20. Quando ci è in pericolo la testimonianza cristiana, raduniamoci. E il mercenario che scappa quando le pecore sono assalite dal lupo, ma chi ama le pecore, le soccorre, si unisce ad esse. L'unione fa la forza, mentre la perseveranza la cementa. Quando si inizia un'opera per Dio sembra che questa non debba mai finire, ma dopo l'impegno, i vari combattimenti, dopo aver sviluppato le virtù cristiane quali l'amore e la fermezza, la perseveranza e la costanza, arriva il successo. Non il successo inteso come gloria, ma come la buona riuscita di un lavoro. Non importa quanto sia grande questo lavoro, quanto sia importante, quanto sia gratificante, perché quello che importa è ubbidire alla volontà di Dio. Neemia così descrive il suo successo. Or le mura furono condotte a termine il 25° giorno del mese di Elul, in 52 giorni. Quando tutti i nostri nemici lo vennero a sapere, e tutte le nazioni che ci stavano attorno lo videro, si sentirono grandemente abbattuti, perché si resero conto che quest'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio, 6:15-16. Se vogliamo vedere le cose da un certo punto di vista, Neemia non divise le acque come Mosè, non fermò il sole come Giosuè, non costruì il glorioso tempio di Dio come Salomone, portò a termine un lavoro piccolo, ma che aveva la sua importanza, ricostruì delle mura che davano una certa sicurezza e identità nazionale. Com'è importante questo aspetto nella vita di Chiesa? Com'è importante che ogni membro di Chiesa si senta utile? Nella parola di Dio abbondano le similitudini applicabili ai credenti come Chiesa. Essi vengono paragonati ad un regno, il che ci parla della collettività umana organizzata, oppure a un gregge, cosa che ci parla della relazione fra la collettività e Cristo, o a una pianta, illustrandoci la legge della crescita, oppure a una vigna, che ci parla della dipendenza da Cristo. La parola di Dio compara ancora la Chiesa a un tempio, che ci parla di un luogo destinato a essere una dimora per Dio. O essa è paragonata a una famiglia, che ci parla dei legami e delle relazioni esistenti fra i figli di Dio. Oppure a un popolo, facendoci pensare a persone che hanno in comune una storia e dei costumi. O a una sposa, dipingendoci la sottomissione, l'affetto e il legame con Cristo. Infine, la parola di Dio paragona la Chiesa a un corpo umano, immagine delle differenti funzioni dei figli di Dio. Così ogni credente ha la sua importanza e il suo valore. Molti vedono la Chiesa di Cristo come un gruppo di persone piatte o incolore, ma non vi è niente di più diversificato dell'opera del Dio Creatore. Infatti, se colui che ha creato l'universo e il mondo nel quale viviamo arricchendolo con una flora e una fauna dalle sfaccettature impensabili e incalcolabili, è impossibile pensare che la Chiesa appartenente al Dio Trino possa essere insignificante, incolore e piatta, dotando l'impossibilità di calcolare il numero dei fiocchi di neve, nessuno dei quali è uguale all'altro, è impossibile pensare che non sia lo stesso per i figli di Dio che formano la Chiesa. Ognuno di essi ha una particolarità sia umana sia divina. La peculiarità umana è una caratteristica che tutti gli uomini hanno dalla nascita, ma la peculiarità divina è una caratteristica che appartiene solo ai figli di Dio e mediante la quale essi formano un corpo, il corpo di Cristo. L'accostamento fra la Chiesa e un corpo dopo 2000 anni dalla resurrezione di Cristo non è una novità, perché se ne parla nelle comunità con insegnamenti cristiani, ma i primi a paragonare la Chiesa ad un corpo sono stati gli apostoli, e, in modo particolare, l'apostolo Paolo. I cristiani del primo secolo non conoscevano l'aspetto della Chiesa come corpo, e toccò a Paolo chiarire alcune cose al riguardo. I credenti di Corinto, per esempio, abbondavano in doni spirituali, chiedendosene la provenienza e l'utilità. Così Paolo, nella sua prima lettera, approfitta di questa occasione per istruirli in merito. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali. Voi sapete che quando eravate gentili eravate trascinati dietro gli idoli muti, dietro l'impulso del momento. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice «Gesù è anatema», e che altresì nessuno può dire «Gesù è il Signore» se non per lo Spirito Santo. Or vi sono diversità di doni, ma non vi è che un medesimo Spirito. Vi sono anche diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi sono parimenti diversità di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. 1 Corinzi capitolo 12. Per prima cosa, Paolo si preoccupa di spiegare ai credenti come riconoscere lo Spirito che procede da Dio, perché esso non può contraddirsi nella sua espressione. Ogni volta che uno professa Gesù come Signore, parla da parte di Dio, se non lo riconosce come tale, non parla guidato dallo Spirito Santo. Questo metro di misura dovrebbe essere valido anche oggi. E se è valido, perché ritenere che tutte le religioni dicano il vero, pur non confessando Gesù come il loro padrone e non ritenendolo come il Dio delle Scritture nominato più di 6000 volte? Ma i doni posseduti dai Corinzi erano tanti. Qual era dunque l'origine di tutti questi doni? Paolo risponde dicendo che i doni provengono da un unico Spirito. Proprio perché ci sono diversità di doni, di amministrazioni, operazioni e proprio perché tutto procede da un medesimo Spirito, queste differenze non sono antitetiche o contrarie, ma provenienti da una sola volontà che le fa agire armoniosamente per il bene della Chiesa. E, per far comprendere che il diverso si completa, Paolo prende in prestito il corpo umano. Come il corpo umano è composto di varie membra aventi diverse funzioni e tutte tese ad un unico scopo, così anche le espressioni dei vari doni sono diverse, ma armoniosamente mirano tutte ad un unico scopo, che è l'edificazione dei credenti. Perciò, la similitudine fra la Chiesa di Cristo e il corpo non ci parla solo delle differenti funzioni dei figli di Dio, ma anche di un obiettivo di edificare e essere di aiuto a tutti coloro che pongono fede in Gesù. Le comunità cristiane non devono dunque essere un luogo di battaglia, ma un ristoro e ragione di crescita mediante i doni espressi dai figli di Dio. Se Neemia ha potuto portare a termine, il suo compito è stato proprio perché ogni credente ha fatto la sua parte in armonia con gli altri. Se questa verità fosse compresa nelle chiese e da ogni singolo credente, le membra del corpo che sembrano essere le più deboli sono necessarie quanto le altre. Anzi, quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo le circondiamo di maggior onore. Quelle che stimiamo le meno indecorose sono circondate di maggior decoro. Perciò Dio ha composto il corpo dando maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre. Occorre ribadire anche che mentre la salvezza è concessa a tutti coloro che pongono fede in Cristo, I doni sono assegnati per l'utilità di tutti i credenti, perciò possedere un dono di per sé non costituisce prova di spiritualità o di comunione con Dio, ma piuttosto della svariata grazia di Dio data alla Chiesa. Coloro che non conoscono o non percepiscono la natura e il corretto uso dei doni con i quali sono stati arricchiti, ne fanno un pessimo uso, a volte disprezzando gli altri doni o soffocandoli, altre volte non usandoli in armonia con il corpo di Cristo. La similitudine della Chiesa di Cristo, quale corpo di Cristo, dovrebbe urlare alla coscienza di ogni figlio di Dio, affinché imparino tutti ad agire armoniosamente come un corpo umano, e perché ogni membro di Chiesa tenda ad avere una mente comune, uno stesso modo di pensare, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno stimi gli altri più di se stesso, e non cerchi unicamente il proprio interesse ma anche quello degli altri. Filippesi 2.1.4. La perseveranza ha sempre portato il suo frutto. Nel caso di Neemia le mura furono finite, nonostante l'invidia dei nemici. Anzi, i nemici si resero conto che l'opera era stata fatta mediante l'aiuto di Dio. Sì, il mondo guarda i figli di Dio. Non farà apprezzamenti se l'opera riesce e non incoraggerà, ma capirà che qualcosa di straordinario è stato fatto. E non bisogna vedere il sole fermarsi, dividere delle acque o camminare su di esse perché a volte è necessario raggiungere un obiettivo difficile o quasi impossibile da realizzare. A proposito, penso a Henry Dunant, vissuto nel XIX secolo, 1828-1920, un vero credente e testimone di Cristo. Nel vedere le conseguenze della battaglia di Solferino, 1859, all'improvviso lo raggiunge la chiamata divina. Aiutare morti e feriti, siano essi francesi, piemontesi, austriaci, ungheresi abbandonati dai loro capi. Nel 1862 scrive un Souvenir de Solferino, un libro che fa il giro del mondo. In seguito verrà fondata l'istituzione della Croce Rossa, il Nuovo Testamento Nazionale. Meno felice, però, è stata la sua vita di imprenditore, che lo ha visto travolto dal fallimento della banca alla quale si appoggiava. Poi si trova costretto a dimettersi da membro del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Questi fatti lo sconvolgono e viene preso da depressione e da manie di persecuzione. Nel 1910 arriva la grande sorpresa. Dunant è premio Nobel per la pace. Dunant disse di sé: «Sono un discepolo di Cristo, come quelli del primo secolo, e nulla di più. Questi sono gli uomini che hanno fatto la storia. Uomini non perfetti, ma veri testimoni. Perché questo esempio? Perché nella Chiesa occorre valutare uomini e donne che hanno obiettivi buoni e altruistici, anche se hanno dei caratteri particolari. Una Chiesa condotta da Dio crea sempre stupore. La gente si renderà conto che, nonostante tutto ciò, è stata la mano divina, come per Neemia e Henry Dunant. Ma per chi è impegnato nell'opera di Dio non è tutto finito. Il successo non è l'ultima tappa, perché rimane ancora una cosa da fare: essere consacrati. Qualcuno ha detto che il più grande impedimento, la paura. Il giorno migliore, oggi. La cosa più inutile, l'orgoglio. Le persone più sgradevoli, coloro che si lamentano sempre. La più grande tranquillità, aver finito bene un lavoro. L'errore più grande, abbandonare la lotta. Il più grande fallimento, la mancanza di consacrazione. Che soprattutto questo ultimo aspetto non sia il nostro errore. Se Neemia ha potuto costruire le mura è perché ha avuto una visione, ha avuto dell'aiuto e della costanza. Ma le cose non sarebbero andate avanti se non ci fosse stata la consacrazione. Così è per la Chiesa. Senza la consacrazione da parte dei membri essa non può sussistere. In un certo senso, la consacrazione era presente in tutti gli aspetti che abbiamo visto fin d'ora, ma a questo punto occorre una consacrazione più completa, totale. Un politico disse: «Abbiamo fatto l'Italia, ora facciamo gli italiani». Parafrasando questa affermazione, possiamo dire: «Abbiamo una Chiesa? Formiamo i credenti». Prendiamo in considerazione cosa fece Neemia. innanzitutto stabilì un ordine. Neemia si rese conto che una volta costruite le mura, occorreva stabilire all'interno della città un ordine sociale e quindi stabilì subito delle autorità. Quando le mura furono terminate e io ebbi messo a posto le porte e i portinai, i cantori e i leviti furono stabiliti nelle loro mansioni, io diedi il comando di Gerusalemme ad Anani mio fratello e ad Anania governatore della cittadella, perché era un uomo fedele e temeva Dio più di tanti altri. E dissi loro, le porte di Gerusalemme non devono essere aperte finché il sole non scotta, e mentre le sentinelle sono ancora al loro posto di guardia le porte vengano chiuse e sbarrate. Si stabiliscano delle guardie fra gli abitanti di Gerusalemme, alcuni al loro posto sulle mura e altri davanti alla loro casa. La città era spaziosa e grande, ma dentro vi era poca gente e non si costruivano case. 7:1-4. Quando si parla di autorità significa che vi è chi guida e chi segue, chi dà ordini e chi li esegue. Come nel mondo sociale non ci può essere ordine se non vi è autorità, così è pure in una chiesa. È vero che davanti a Dio siamo tutti uguali, ma i compiti sono diversi. Perciò ci è chi ha l'ufficio di guidare e chi è chiamato a seguire. Più passa il tempo, più mi rendo conto che l'argomento autorità è vitale per ogni istituzione. Personalmente tale argomento non ha mai costituito un problema, ma mi rendo conto che un simile tema merita più spazio di quanto ne diamo normalmente, perché che lo vogliamo o no, i credenti di oggi stanno ricevendo l'influenza del mondo. Del resto è sempre accaduto ai credenti di ogni epoca di subire i condizionamenti della cultura circostante. Nulla di nuovo sotto il sole. Questo spiega perché la parola di Dio è sempre attuale e utile a insegnare. Qual è l'influenza del mondo sui credenti, mi chiederete. Ho presenziato ad un matrimonio civile e ho ascoltato con interesse i diritti e i doveri dei coniugi. Il primo articolo che lesse l'autorità civile fu: «I coniugi hanno pari diritti e doveri davanti alla legge». Allora ho chiesto alla persona incaricata se questo significava che il marito non è capo della moglie. La risposta fu che questo articolo era stato tolto dalla istituzione dal 1975 in poi. Poi ho domandato se questo articolo non deresponsabilizzasse il marito, ed essa convenne con me che in effetti vi era questo pericolo. Uomini che non sentono la responsabilità. Questo è il pericolo della Chiesa di oggi. Come sono troppi i mariti e i padri che non si sentono responsabili se le cose non vanno bene in famiglia. Così sono troppi gli uomini a non sentire la responsabilità dell'andamento della Chiesa. Autorità e sottomissione. Due principi validi in ogni settore. L'autorità biblica è, per il maschio, la vocazione divina ad assumersi le fondamentali responsabilità di servizio, proteggere e provvedere a imitazione di Cristo, mentre la sottomissione biblica è, per la donna, la vocazione divina ad onorare e confermare l'autorità dell'uomo, aiutandolo. Noi uomini dobbiamo ricordarci che in principio la donna è stata creata come aiuto dell'uomo e non viceversa. Questo principio va gridato a certi uomini e a certe donne, agli uomini che non si assumono le responsabilità ma le scaricano sulle donne, e alle donne che si assumono responsabilità deresponsabilizzando gli uomini. Una chiesa cresce se gli uomini si consacrano a Dio assumendo le loro responsabilità, i loro impegni, i loro doveri. Un uomo non cresce se il senso di responsabilità per la guida, datogli da Dio, rimane sotto la direttiva di una donna. Se io fossi una donna, vedrei l'emancipazione femminile non tanto facendo presente i miei diritti, ma soprattutto facendo presente i diritti dell'uomo. Piuttosto che discutere su quello che le spetta, perché la donna non fa presente all'uomo quello che lui ha di diritto, sì, dico diritto, non dovere. Se all'uomo vengono ricordati i suoi diritti, gli si rammenterà anche di avere il diritto di essere il capo, cioè colui che ha l'autorità di guidare, di assumersi delle responsabilità. Satana ha realizzato una vittoria tatticamente sorprendente, ha scritto John Piper, divulgando la nozione che la vocazione maschile all'autorità si è causata dall'orgoglio e dalla trasgressione di Adamo, mentre di fatto l'autorità spirituale sfugge proprio all'orgoglio. Il vero problema consiste nella mancanza di progettualità spirituale, nella debolezza, nella pigrizia, nel nervosismo diffuso tra gli uomini, non nella ripresa di interesse per i ministeri femminili. Una volta stabilito l'ordine, occorre stabilire dei patti. Nemia così ha raccontato la sua esperienza. A motivo di tutto questo, noi prendiamo un fermo impegno e lo mettiamo per scritto. E i nostri capi, i nostri leviti e i nostri sacerdoti vi metteranno il loro sigillo, 9 e 38. Avere avuto una visione, avere avuto un aiuto, avere agito con perseveranza, avere stabilito un certo ordine, non bastava. Occorreva, ora, che i giudei prendessero un impegno, perché tutto quello che era stato fatto potesse andare a buon fine. Perché prendere un impegno non bastava l'entusiasmo, la buona volontà? N0. Purtroppo l'entusiasmo e la buona volontà non bastano perché essi sono mutevoli. Mentre l'impegno, per chi ha del carattere, non è condizionato dagli umori. Così è nella Chiesa. Se una Chiesa cresce è perché vi sono persone che hanno preso degli impegni e li portano avanti. E per contrasto, se una Chiesa non cresce è perché vi sono persone che non hanno preso impegni. Non mi riferisco alle persone impegnate, ma a quelle che non prendono delle posizioni. Pochi hanno il coraggio di prendere degli impegni perché sanno che questo li condiziona, li rende responsabili. Purtroppo noi cristiani seguiamo sempre l'andazzo di questo mondo. Nel mondo è di moda convivere senza prendere l'impegno di sposarsi. Non è uguale, non è come essere sposati? Mi direte. Assolutamente no. E per due ragioni. Innanzitutto, se fosse uguale, tanto varrebbe per la gente sposarsi. Evidentemente se si convive e non ci si sposa non è uguale. Qualcosa di diverso c'è. Non vi sembra? Poi, in una convivenza ci si sente liberi di separarsi perché tanto non si sono presi degli impegni davanti alle autorità e davanti ai parenti. Così è nella Chiesa. Vi sono persone servizievoli che non vogliono rendere pubblico il proprio impegno in un certo lavoro. In questo modo, fanno di tutto ma non sono responsabili di niente. La Chiesa invece va avanti quando ci sono persone che si assumono un impegno pubblico e riconosciuto da tutti, come l'essere dei conduttori sapienti ma non compiacenti, e dei fedeli diaconi. È vero che ci si può comportare come anziani e diaconi senza dirlo pubblicamente, ma questo non responsabilizza e neppure edifica la Chiesa. Perché un governo ombra non ha mai edificato nessuno. Neemia mise per scritto gli impegni presi. Perché non fare così nella Chiesa? Che male ci è nello scrivere nero su bianco i compiti di ogni credente? Non è questo assumersi degli impegni responsabilmente? Che Dio ci dia sapienza. Chi furono coloro che si impegnarono? Così leggiamo. Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, i netinei e tutti quelli che si erano separati dai popoli dei paesi stranieri per seguire la legge di Dio, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, tutti quelli che avevano conoscenza e intelligenza, si unirono ai loro fratelli, i più ragguardevoli fra loro, e si impegnarono, con esecrazione e giuramento, a camminare nella legge di Dio data per mezzo di Mosè, servo di Dio, e ad osservare e mettere in pratica tutti i comandamenti dell'Eterno, il nostro Signore, i suoi decreti e i suoi... Dunque, sacerdoti, leviti, capi del popolo, cioè persone riguardevoli di una certa posizione sociale, come tutti coloro che erano in grado di intendere e volere, le mogli, i figli e le figlie si impegnarono a camminare nella legge di Dio. E così è della Chiesa. Perché possa crescere, come abbiamo visto, occorre l'impegno di tutti. Abbiamo anche considerato precedentemente che tutti lavorarono, ma se si fossero fermati a questo punto senza rendere pubblico il proprio impegno, non avrebbero combinato nulla di duraturo. In che cosa si obbligarono? In tre cose: a ubbidire, a donare denaro e a consacrarsi. Dunque, per prima cosa, si impegnarono a camminare, a osservare e praticare la legge. Questi verbi non esprimono un impegno vago, ma la ferma volontà di ubbidire totalmente a Dio. Se questa decisione fosse presente nella vita di ogni credente, Se noi ci impegnassimo ad amarci, a perdonarci, a sopportarci, Dio sarebbe conosciuto molto di più. Per seconda cosa, si impegnarono a donare del denaro. Ci impegnammo tassativamente di pagare ogni anno il terzo di un siclo per il servizio della casa del nostro Dio, per i pani della presentazione, per l'oblazione perpetua di cibo, per l'olocausto perpetuo dei sabati, dei noviluni, delle feste stabilite, per le cose consacrate, per le offerte per il peccato, per fare espiazione. Per Israele, per ogni lavoro della casa del nostro Dio, 10:32-39, il rito ebraico doveva essere svolto, e questo comportava un certo onere perché occorrevano animali, olio, pane e sacerdoti. Ma la liberalità dei giudei non si fermava strettamente alla legge, perché tra i capi famiglia ce ne furono che diedero al tesoro dell'opera 20.000 dracme d'oro e 2.200 mine d'argento. Il resto del popolo diede 20.000 dracme d'oro, 2.000 mine d'argento e 67 vesti sacerdotali. 7.7.1.72. Quindi, alcuni giudei portarono altre offerte volontarie. Per capire il valore dell'offerta di 2.200 mine d'argento, occorre fare un confronto. Una mina era pari a 100 giornate di lavoro, quindi diedero un valore di 220.000 giornate di lavoro. Ciò significa che alcuni capi delle case paterne diedero il valore di quello che guadagnano più di 24 operai in 35 anni di lavoro. Stupendo, poi, l'ultimo impegno preso dai giudei, che, a questo punto, altro non è se non coerenza. Noi non abbandoneremo la casa di Dio. E così è per la Chiesa. Anche se come credenti non abbiamo più l'obbligo di offrire animali, vi è sempre un certo onere da sostenere per vivere una vita comunitaria. Il luogo di culto, il pane e il vino della domenica, come pure in alcune confessioni religiose, il sostentamento di una persona, il pastore o il conduttore, che si dedica a tempo pieno per la Chiesa. In genere, i membri di Chiesa donano la propria decima per il sostentamento della Chiesa, ma conosco persone che hanno preso l'impegno di dare molto di più. E questo dovrebbe essere normale, perché il denaro, il nostro possesso, appartiene a Dio, come del resto gli appartiene ogni altra cosa. Così, se vogliamo dimostrare a Dio che tutto di noi stessi gli appartiene, dobbiamo dare a Lui, e per la sua opera, almeno le decime delle nostre entrate, senza abbandonare la Chiesa. Il terzo impegno, assunto dai giudei, fu quello di consacrarsi. I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme, il resto del popolo tirò a sorte per far venire 1 su 10 ad abitare a Gerusalemme, la città santa, gli altri 9 decimi invece dovevano rimanere nelle altre città, 11, 1 a 2. Dopo essersi impegnati ad osservare la legge di Dio e a contribuire con il proprio denaro, occorreva per i giudei un altro passo importante. Gerusalemme era una città vuota e occorreva che fosse abitata. Come fare? Alcuni spontaneamente andarono ad abitarvi, ma essendo ancora pochi si tirò a sorte, perché altri si stabilissero a Gerusalemme. Quando si è costretti dalle circostanze, affidarsi alla sorte può diventare una soluzione, se fatto con fede anche come metodo di chiesa. La vita di chiesa deve procedere e, se occorre del personale, qualora non si trovasse, non sarebbe poi traumatico se si tirasse a sorte. È evidente che un tale metodo presuppone la totale consacrazione di tutta la Chiesa e il credere che Dio sia sovrano nella scelta. Ovviamente l'ideale sarebbe la guida diretta dello Spirito Santo, ma Dio non è legato a degli schemi e qualsiasi metodo utilizzato con fede può essere valevole. Quale fu il risultato della consacrazione? In quel giorno offrirono grandi sacrifici e si rallegrarono, perché Dio li aveva allietati con una grande gioia. Anche le donne e i fanciulli si rallegrarono. E la gioia di Gerusalemme si udiva da lontano, mezzogiorno e 43. Il risultato finale di un'opera iniziata, portata avanti, terminata con fede e con la preghiera, non può essere che la gioia da parte di tutti, donne e bambini. Da notare che i bambini partecipano anche loro alla gioia. Questo ci insegna che i fanciulli, non sono la Chiesa di domani, ma una parte attiva della Chiesa di oggi. Una Chiesa saggia deve dedicare il suo tempo ai fanciulli, sia nell'istruzione, sia nella condivisione del cammino come comunità. La tua comunità si occupa dei bambini, tu fai qualcosa per loro, prega per i fanciulli, perché possano prendere il tuo posto nella Chiesa. Sarà una meravigliosa eredità. La gioia di Gerusalemme si udiva da lontano. Una Chiesa che cresce fa la volontà di Dio. Una Chiesa che cresce è nella gioia di Dio. Una Chiesa che cresce è notata dagli altri, perché se ne udrà la gioia da lontano. Ciò che impedisce la crescita di una Chiesa è, anche, il non sapere rallegrarsi nel Signore. Questo denota due cose: mancanza di fede e problemi personali irrisolti. Prendiamo quindi sul serio l'invito di Neemia. Non rattristatevi, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. 8 e 10. Quando si parla della gioia dell'Eterno, si intende tutto ciò che rallegra Dio, e soprattutto quando, per noi umanamente parlando, non è motivo di gioia. Uomini come Paolo hanno sofferto di tutto. Hanno ricevuto le più grandi umiliazioni, erano ritenuti la spazzatura del mondo, ma in tutto erano più che vincitori perché sapevano che la loro opera fatta per Dio non era vana. Così, un altro motivo per rimanere fermi nella fede e saldi nell'obiettivo di edificare la Chiesa alla quale apparteniamo è vedere l'opera di Dio nel cuore di ogni singola persona, vedere le persone più insospettabili usate per il regno di Dio, vedere che Dio è ancora oggi potente a strappare delle anime dal potere di Satana. La mia preghiera è che la Chiesa alla quale appartieni possa vivere nella gioia e nella pace di Dio, possa servire Cristo con gioia e con la potenza del Dio Trino, che possa essere un laboratorio per formare uomini e donne dal cuore ardente, dalla mente lucida, dalla lingua infuocata e dagli occhi umidi. Infine, la Chiesa che frequenti possa condursi così bene che le anime alla ricerca della verità e di Dio, quando entrano in sala, la trovino a lodare Cristo in modo tale che i segreti del loro cuore sono messi in luce, e così gettandosi giù con la faccia a terra adoreranno Dio, dichiarando che Dio è veramente fra voi. 1 Corinzi 14 e 25. Gennaio 2009, Ellero.